Anto? Sì, chi è? Buonasera, Daniele. Oh, ciao Dario, vai ascoltare. Altrettanto, sono mezz'ora che ti stavo chiamando. Bene, ma vabbè, con l'ultimo lavoro, la cosa che è attaccato. Vuoi sentire? Campa Roggia, sto un secondo che ripiazzo una cosa, aspetta. Bene, sono qua. Chiama, che rimetto la radio nella staffa, aspetta. Anto? Eccolo. Eccoti. E cosa stai provando? No, stavo facendo delle protezioni senza apparecchiette, adesso ho detto però che sto legato. Cavarroggia, sto secondo? Adesso l'ho messo a fuoco del tutto e quindi... 1, 2, 3, presola! Cavagala e cavagala! E lo metto neri, è andato! Cosa tu? Adesso lo metto neri, è andato! Qua che ho spostato la radio, mi stava zuffando a rimettere la staffa. Addirittura. Bobo. Sembra... c'ha la staffa con le tacche, no? E poi gli avvitti le cose, sembra tipo bracciere. Adesso fatto attenzione, mi chiede come è a casa, sono più a casa. Ehi, magari, magari. Io volevo provare a attaccare la MP5 a questa radio. Ma ho paura di azzuffare a fare le connessioni poi. Ah, vai, che sei difficile. Già lo so, la gara mi manca. La gara manca pure a me. Quella è cosa brutta, Cosa capita, sarà di 50 anni che manca, non ti rigare. Io ho qualcosa, un bel po' in meno. Ma lo immagino, sì, ti sei dalla fare. Mi sa che no, che non è questione di età mia, tu. Ma questione di lavoro in gara? Sì, quella è standard. Vabbè, va, per la passione, diciamo, per la passione. Io quando ero... già quando ero appassionatissimo, non devo fare anche la notte. Perché praticamente stavo sempre che prendo il tutto, che prima le non sapevi, ho potuto prendere il e cosa ho fatto. Così sì, dai. Così sì, già va bene. Mi sa che dopo salgo su, la mamma me lo prendo. Te lo colleghi, diciamo, la sala di Romondo, non so fare un virus. Infatti, ascolta tu, per la capsula com'è? Perché c'ho una capsula vacante a casa, non so se quell'altro l'avevo lasciato oppure era staccata e l'avevo lasciato perdere. Cos'è? Le motore di coperchio di sotto oppure da sopra prima che cambiamo la capsula, com'era? Ma la capsula è detto che era su 25, 24. Il 5, quello con due manopole, cos'è? Beh, di scegliere con la farina grigio che ha il bordo, con la regina stentera, con la capsula, la scappa, che la vuoi cambiare? Ecco, la sua che si faceva, adesso mi sto ricordando. Va bene, dopo me lo scendo. Ma perché la vuoi cambiare? No, non è che devo cambiare la capsula, perché anni fa stavo facendo le prove con diverse capsule per adattarlo al DAC, non mi ricordo per quale radio. E ogni tanto trovavo delle capsule o me le davano, capito, a provare. Però poi non mi ricordo se avevo lasciato una capsula oppure è rimasto senza capsula. Ho capito, ma in ogni caso se le capsule così a condensatore alimentate sono spettate per poco dello stesso dato senza lenta, quindi qualsiasi tipo di capsula di mezzi sei sempre lì. Cava, poi c'è anche un Expander 500, conosciuto l'avevi quel microfono? No, Expander 500 no, la verità. Cazzo, un bel rasone di microfono, Ma è sempre da tavolo. Cappa, è da tavolo, è un quadrato, poi c'ha il piede col... che poi c'ha il microfono all'interno della capsula. Ma è quello che tu usa? Ibu. Non lo sai, chi lo marchiava, no? Se era Vinter, se non so, di No, me lo ricordo, Anto, ce l'ho su... se lo cerchi su internet lo trovi, Expander 500, da poco ne stavano pure vendendo uno. Sì, in campagna dentro casa non ne ho connessione, magari in carriera. E quindi non posso guardare, no, ci ho avuto tanti, lì, una miliardata, però quando il 100% non mi è mai capitato questo male. C'è anche quello, sto come dicendo tutti e due, quello lo usavo anche col DAC, è sempre preamplificato, in realtà l'ho preamplificato, i regolettoni, regoli tutto, è bellino. Ma è senz'esco? Sì, tutti normali, preamplificati normali, dai, senza grosse cose. Poi ne avevo uno con l'eco, che quello funzionava e non funzionava, non siamo mai riusciti a farlo andare, e che non so neanche se è finito dentro la spazzatura alla fine, che era, aveva il basamento grande, rettangolare, poi c'aveva il piantone dove c'aveva la capsula, che era sottile quanto un dito e sembrava quelli che si usavano all'epoca alla standa. Ah, quelli argentati, si fa così della bambina. Cappa. Era proprio la larga, ci stava giusto giusto la capsula, per darti l'idea. Era 2 mm appena più larga di una capsula. Sì, quello è M600 della Intel. Abbiamo fatto due modelli, l'M500 amplificato normale, l'M600 amplificato con l'eco e lo smitterino. Cappa, c'era pure il bip. Sì, c'erano tre tasti, uno della portante, uno della portante fissa e l'altro il bip. Cappa Rogero. Ah, quello non spingeva però. Questo non spingeva, ne uno la bomba. Ma dipende dalle radio magari, non lo so, io le mettevo su radio l'epoca. Ma guarda, io questo che ho ancora, ce l'avevo collegato al Saturnetto, quando avevo il Saturnetto negli anni, veramente anche più forte, 98, 99. Cava, cava. Guarda questa, così troppo forte, Antu. Io ti ascolto bene. Cappa, che gli ho chiuso un altro pelino il parlascolta, se no iniziamo a innescare. Anche io te l'ho chiuso un po' poco fa perché faceva troppo al burunto. Anche io già. Adesso vedete. Prova. Vedi, così è bella la Ryan tu. Così va meglio? Molto più forte. Allora, se regolare una segolata, che ti sente alto, che ti sente basso, che ti sente cupo, che ti sente barattoloso, che ti sente qui, che ti sente là, alla fine non lo comprendi nulla. Quello c'è sempre, Antu. Chi la vuole cotta e chi la vuole chiusa c'è sempre. Io ti sento benissimo. Io la cosa non ce l'avevo regolato così. Un tantino più alto era, perché è stato tanto più spiaggia. Dai, che fai scendere la lista, mi dai, sei incomprensibile, abbassa, abbassa. Ma se mi chiamo, ce l'ha due. Vai bene, Antu, vai bene. Che dipende poi anche dalla cassa, dalla radio che ti sente. Tutti sì, ma visto. Quanto può essere disgraziato quest'altro parlare di un pacchino. E a uno che uno non capisce, l'altro non sente bene. Ah, boh, non lo so. Io l'ho attaccato, guarda. Per darti l'idea, una cassa esterna di un vecchio giradischi. E quelle rivestite in finto legno, diciamo, tutto trucciolare, rivestite in finto legno. E ti ascolto, guarda, benissimo. Beh, chiaramente, l'ideale sarebbe avere un autoparlante esterno, magari anche uno con i filtri, perché alla fine è poi, non so se mi possono attivare, si arriva sempre a... E infatti, però già si sente bene, dai, per le modulazioni basse va più che bene. Il segnale com'è? Basso? No, 6-8, Antu, 8 a picchi quasi di 9, dai. Va bene, qualcosa la posso fare, non lo so, vedi un po' se aumenta qualche cosa. 1, 2, 3, prova. Adesso sei 9 pieno. Va bene, io ho aumentato poco, ho portato al massimo, diciamo, va. Va bene, va, più che bene, radio e segnali ottimi, punte. quella. Sì, no, non è roba mia, quindi era così e ciccia, già se lo può regolare poi come vuole. Chiama Rogero. Aspetta, guardiamo. Allora, ci sono, aspetta, volevo vedere se è stazionaria qua. Se volevo regolare questa Asturia. E sciavi lì. Di russo, perfetto. No, uno e uno, perché questo parte già da 1 e 1 di lancetta, vabbè che è uno ZG, quindi segna 1 e 2, quindi sarebbe 1 e 1. Questo vuol dire perché i ZG passano da 1 e 1. Guarda, ne ho due di rosmetri, tutti e due ZG, un HP 202 e questo è 201, che sono quasi gemelli. E tutti e due non partono dallo 0. Ah, vabbè, partono dall'1. Nel senso che... vabbè, capito. Ma è una cosa che mi dà futta, perché in caso uno strumento deve partire dallo 0, non deve partire dall'1. Ma guarda, io anche quelli... Io qualcuno, non un po' qua, il vecchio parte da 1 anche quello. Capito? A 1 e poi si fa tre cazzo, perché... Se non si è partito da zero, per costruirti in uno dovresti essere già a metà dello strumento. Cosa? Aspetta, che ci stiamo ascoltando basso, dimmi, dallo strumento? Ho detto, è normale che parta dall'uno, perché altrimenti, no? Se io dovessimo partire dallo zero, come dici tu, per segnarti uno e uno di stazionario, dovrebbe essere già alto nella scala dello strumento. Ah, caparrogero. Quindi dici che è proprio normale così, dai, perché ho visto quegli altri, quelli Daiva che partono dallo zero spaccato. Sì, ma quelli partono dallo zero spaccato perché hanno gli aghi incrociati e lo zero serve per il basso. Anche il 202 è così, c'ha gli aghi incrociati ma parte già dall'1, vabbè. Il giorno che c'ho soldi già lo compriamo anche un Daiva. Sì, guarda, io ce l'ho avuta, non è che sia anche, sono bene anche quelli che non sono Daiva, mi parate che non siano proprio scarsi o sparati o malomessi. Quello è, per sapere anche sia il picco picco che in AVG, capito? Perché questi non ti danno il picco picco. No, quello non te lo danno, per quelli ce ne vuole uno professionale, tipo il Diamond. Uno di quelli ci vuole, uno di quelli, perché se no tu stai modulando e ti dà, cosa ne so, 5 watt a picchi di 7 per dire. E tu devi prendere uno con modulatore, tipo l'HP1000. E su che parlavo, sembra che siete in FM. Ma non siamo in FM, siamo in AM. Siete un po' larghi. Un bel larghi di banda, faccio digitale a vedere se dice la verità. Claudie! A te non ti capisco proprio, guarda. Proprio a zero, sotto zero ti capisco a te, sì, mi manda a parlare. Qua io sto usando un watt e mezzo qua, guarda adesso, ho passato la radio. No. La Giorgia con i filtri stretto, largo, medio, NB. Di tutti c'è componenti con la Coriaesio, no, ha ragione Gianfranco, non c'entra affatto. No, vabbè, no, se ti fare questi così, anzi, tu la abbassi la potenza che peggio ti ascolti. No, ma ha ragione Gianfranco quando dice che c'è con i barattini modificati con l'eco non si capisce una mazza. Quando c'è una radio serie, adesso sto provando lo Yaesio, l'FT950D, c'è una radio mondiale, digitale, ma non si capisce una mazza, Daniel, non riesco a capirti. Posso mettere qualsiasi tipo di filtro, non c'è niente da fare. Non lo so, Cla. Non so. E tu per quello, ascolta la folcolante o te lo rispondi con quello? No, continuate, ora giusto. Non sto provando questo, già va bene, già mi sentite lo stesso. Hai fatto anche il 48 normale? Avete parlato in due, cosa hai detto? Avete ben ascoltato? Con questo già mi sento lo stesso, microfono normale, voce bene. Anche a te ti sento distorto, Onzo. Anche io. Sto usando una lampa sotto così. No, stavo dicendo, si attacco il 48 normale, come mamma l'ha fatto. Digitale, c'è un esatto di spettro che sta impazzendo, cioè non avete nessuna centratura né uno né l'altro. Sì, vabbè, ma lo sai, lui guarda, posso provare ad abbassare il latte per vedere se mi leva bene il furio. A me mi senti caro. Così va quel furio a me, vedo che magari senti un tantino meglio, però non è detto, vedi un po'. Se tu stacchi il processore e attacchi il microfono normale ti sento bene, mentre la bandiera è tutto deve cambiare radio, c'è una spaziatura allucinante. Diciamo a 25 metri da casa mia, Spugna, che Roberto Genaro, gli altri Conti. Ecco, e quindi, vedi tu, sono apparati che siamo purtroppo a mano stretta e non ci puoi fare niente. Sentono solo quello e basta. Vabbè, sono altre cose, anche di più gli apparecchi, vengono utilizzati, sono altre cose. Le persone si imparano quello che si ha. Vero, Daniele? Sì, conferma, è importante sentirci, dai, poi. Sono lo saccio, sono lo saccio. Non importa che microfono ti danno, l'importante è che abbia il cappuccio. Giusto, giusto. Se no mi tocca attaccare il 48 normale. Ah, tu adesso lo stai usando, il 39. Io sto usando l'ala 87. Ah, è vero, tu hai l'ala 87, vabbè, che sarebbe tipo il 4000, là. Si conferma. E tanto sto usando io, l'ala 87 è precisa identica al suo, solo che io non ce l'ho l'ecco, non c'ho tutta quella roba lì. E questo è originale dalla fabbrica. Ma perché l'ala 87 non fa l'ecco? No, non è quello che devi inserire tu, c'hai il pulsantino dell'ecco, con i due cavi, rosso e nero. Poi devi metterli l'ecco tu, inserirglielo e c'è roba da fare. È facile, no? Infatti io mi ricordo, perché l'ala 87 ce l'ho avuto, ma non mi ricordavo che mi fa l'ecco, mi chiedo che ce l'avevo. Con le 4000 c'ha l'ecco, quello ce l'ho anch'io, ce l'ho qua buttato a casa. C'ha problemi in trasmissione e non l'ha ancora fatto. Ho lasciato una parte, siccome se ho andiamo a baracchino, non è che non è abile, c'è anche lo Iaeso. Quindi figurati tu, il quadro in banda. Sì, quello che fa. Ma come scoprimina mi piace una volta a me, sì, sempre. Forse non se ne trovano quasi più. Ce l'ho io. Gli ho cambiato la mascherina e basta, non ho fatto altro. E cosa gli hai messo? La mascherina del terminello che gli ho messo, però ce l'ho ancora la mascherina sua originale, con tutti i pomelli, eccetera, eccetera. Perché non l'hai cambiata, così? È che è più bella quella del 2009, la verità. Da più pesante, si esalta più l'apparato, capito? Capito. No, io quando sono fatto me lo volevo comprare il 4000 euro. Poi invece ho recuperato per ritornare al 4500. Il 4500 è come il 2009, sono precisi, non cambia nulla. Ma se cambia la mascherina diventa omologato. Anzi, diventava omologato, adesso non più. Io ce l'ho ancora la mascherina, quella che ti danno, dove ti devi solo togliere i pennelli e metti tutto il pezzo davanti, con l'omologazione dietro scritta, del parassito mi pare, dico guardate, l'alternato è da 4S, boh, non lo so, di uno di quelli. Quello ce l'ho anch'io ancora, ce l'ho così nel 2009, figurati, ce l'ho, quanto sarà, una ventina d'anni. Quindi figurati più, anzi forse di più, avete voi di zeddo, quindi c'ha più di 25 anni con l'apparecchio e ancora funziona come un treno. Quello funzionavano bene, ma vuoi andare, dai, cava, cava. E poi già, ma l'87 non ce l'aveva di natura l'ecco, no? Perché qua c'è scritto ecco, Roger Beep. No, devo ripetere da parte, una cosa da parte. Ah, collegamenti esterni sono, cioè collegamenti da fare dopo. Esatto, sì. No, ma ci devi mettere la scheda dentro. No, nel mio schermo dentro non c'era, c'era solamente il cavretto nel pulsantino, uno solo nero e basta, poi devi collegare tutti i cavi. Ma quindi metti anche la schedina, ecco, perché non mi aveva all'interno. Infatti devi mettere la scheda dentro, esatto, sì. In pratica sarebbe la scheda uguale identica a quella con le 4000, tale precisa identica, sono uguali. Sì, perché sono gli stessi gli apparecchi uguali identici, io quelli là l'ho preso, non ho le scatole, avevo un metro di vita, me l'avevo venuto Giulio padre zio. Chi te l'ha venduto? Giulio padre zio, ancora è stato là, cioè... Fate la fate vapore, poi di un gira immacolato. Ma è con le 4000? No, la 87. Allora sei sbagliato parecchio, perché la 87 di Giulio Padre Pio ce l'ho io. In pratica quello di Giuseppe Padre Pio è passato a Franco California, Franco California era passato a me e io l'ho sistemato. No, anche a me, allora ne ha avuto due, perché non l'ha venduto a me? E glielo sei anche chiedere. A me quando l'ho visto mi ha detto che ce n'avevo solamente uno, mi ha detto così, quando ho trovato in viaggio con i pascoli. Cosa ti posso dire, 7 mesi fa. Poi ho trovato una cosa, ho trovato un altro CB che quello, già lo sai, quello che viaggia con quella specie di scooterino piccolino da invalidi, che CB lo stesso, voleva un baracchino e me l'ha chiesto, ho detto guarda, c'ho quello, ho detto Giulio Padre Pio, gli ho detto. Se lo voglio, ho detto, mi 100 euro mi dai e sei a posto, gli ho detto, funzionava benissimo, gli ho detto, lo sto usando io, gli ho detto, ed è perfetto. Ma guarda, io ve lo ripeto, questo è roba di tanti anni, se non mi ricordo, ho preso, secondo me voleva una persona, poi ho fatto fare la venduta e andato a, non so già, ho sentito tutta la vendita. Cioè, se io l'ho preso da, ho detto, quello è il mio. Guarda, addirittura questo apparecchio qui ce l'ha Angelo Delfino, te lo ricordi? Con microfono Salerta, l'Eco Master. Sì, sì, come ricordo, Angelo Delfino. Cavolo, ma perché non mi sa che cosa? Ma, sono gli ascensori. Qualcuno qua mi fa dice il nome. Quindi mi viene di tu, a un certo punto. Quindi ha avuto due il padre Pio, in pratica. Vabbè, cioè, sono morto. Giulio in pratica l'ha dato a quello lì, quello l'altro quello gliel'ha bruciato, poi me l'ha dato a me aggiustare, io gli ho dato un moslet, uno di quelli che mi avevano mandato a me qualcosa e in pratica mi sono tenuto in baracchino. Quindi a un certo punto non volevo né uno all'altro se li avrei trovato indietro, quindi essendo furbo a un certo punto già ho avuto la bruciatura di un baracchino, meglio non va bene la seconda. E io vado a dire, no, smetto, io mi tengo il barattino, infatti sto usando il barattino su. Ho capito, ho preso anche un Lafayette da Giovanni 500, un Lafayette Petrus, mi sembra. No, non lo so questo, vediamo, non me lo ricordo. Vai Daniel, tu lo fai preso il 47. Qua, ho fatto l'affare, dai, l'ho preso. Vabbè, la dico, che l'hai preso, questa è una delle notti che ha fatto il giro. Sì, questa era di Massimiliano, me l'ha dato. Franco Massimiliano, che gliela ha venuto scrivendo Franco del Palino, che era il mio. Un saggio, non lo so di chi era prima. Ascolta, ma c'è lo Switzer colorato, azzurro. No, è bianco ghiaccio, è. Vabbè, io sempre l'avevo modificato, c'era anche l'interruttore per spegnerlo. Perché devi illuminare la luce. No, questo non c'ha niente di tutto ciò. Questo c'ha, vabbè, classiche modifiche che li fai. E basta. Bene. Cava. E cava. Ecco il coso. 2 secondi. Ma tu lo puoi usare adesso, Antonio? La 87. Ah, la 87, no, pensavo stavo usando quel banda, cosa ne metto? Via Rigi. Adesso l'attacco, aspetta. Bene, anche lui la 87. Ma la 87 stanno uscendo così, a grido. Stanno uscendo a piso. Beh, a me l'unica cosa che mi dà, sai? Perché la sua cosa che l'ho venuto subito, l'ho venuto. La cosa per fare il regalo, ma non l'ho mai tenuto. Cazzo di pomi in gomma. Aspetta, che alle volte non ti sento bene, dimmi. Ho detto, mi senti? Sì. Ho detto, l'unica cosa che mi dava fastidio a me di quella 87 erano il cazzo di pomi in gomma. È vero, c'ho quello dei canali che ogni tanto come giri si allarga e slitta. Cazzo, sono una chiave, cazzo di tutti. Come ascolti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, originale, microfono originale. Vabbè, sei molto, come si dice, la chiusa, guarda adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo sai che c'è il pulsantino dietro, il microfono normale, meglio va. dopo, beh, però se non sei, cioè, non sei neanche tu, tu sei di con il microfono strano, con mille diti, mille marane. Allora da voi ti dica, è il microfono suo originale, non ho toccato niente. Quindi figurati tu, così, aspetta, posizione 1, così posizione 2, così si abbassa la potenza in uscita, invece così l'audio è più alto. Sì, in un secondo passaggio andava meglio l'audio, perché sennò è troppo basso e il QRM di Silania. Adesso sono quello normale, no? Così va bene. Quindi andrà bene bene, adesso sono accolto una cosa, sono qua di banda, sto usando, in questo movimento. Va bene, siamo una telefonata, tanto è. Col viaggio, o no? Sono di qui, posso andare dove voglio, vabbè, c'ho la discola, già lo sai anche tutto, l'ho detto l'altro giorno, quindi installata, a parte la direttiva VHF e VEU, cioè, quella 12 elementi, quella che funziona meglio. Ehi, ti ho capito, però quello che stavo chiedendo, quel modello che hai tu di apparecchio è quello che ha lo spinotto del microfono con il plug senza la ghiera, dico, quello col plug tipo il telefono. Esatto, sì, originale. Ok, vabbè, non l'hai mai provato ad attaccare il microfono? Così l'ho comprato, così l'ho preso e basta, non ho fatto nessuna modifica per poter agganciare così strani, l'ho lasciato così com'è, già va bene così, io per agganciare i microfoni amplificati eccetera eccetera, fare modifiche, tanto diventare pure nel menu e diventare scemo, no, l'ho lasciato così com'era, quello l'ho comprato, l'ho lasciato. Bene, bene, quello fa HF, tutto fa, anche le pastiglie per dormire. Capito. Allora si chiama Yaesu? 857B. Bene, bene. E quanto costa lo fa fare? Nella scrittura c'era scritto, se non mi ricordo male, 700 qualcosa. C'era con la scatola conservata con tutti gli agganci, tutto, per poterlo piazzare e capito, staccare da una parte, metterci lì, dividere in due, in pratica, il frontalino lo metti davanti alla macchina e l'unità interna ce la metti dove andiamo voi tu. Costa una la short ancora quella radio, quella è bella lì, quella è bella. Cavolo, però si sente quasi. Non vuole calare di prezzo. No, non cala, vabbè, la fa dei cinesi uguale a 250. No, pianto dei cinesi. Sì, l'ho detto, i cinesi non la fanno una uguale a 250 euro. Come se i cinesi scimmiotano tutto. Bisogna cercare, guarda su Wish se la trovi. Ma io tempo fa ne ho visto una su Wish, no, su AliExpress, una quadriband che costava poco meno di 200 euro, della, vabbè, di quelle marche tipo, cioè, non so, della Baruch Angus, la Marasuki. E quelle sono lo stesso di quella razza lì. Infatti secondo me le preferiscono tutti loro, e poi lo vendono e ognuno se ne acquista marchio. Poi l'ho vista una, addirittura c'era una anche in vendita qui a Sassari, comprata e messa subito in vendita, era nuova, a 200 euro. E vuol dire che non lo soddisfa, che poi hanno fatto la Bonfeng anche veicolare adesso. Oppure, ma io ce l'ho portato lì con quello... Quanto? Quanto? In cambio di questa voglio il Fettong l'808, quindi figurati, costa 400 dollari americani, quindi figurati tu, è bello quell'apparecchio là, è il mio sogno, guarda, farei qualsiasi cosa per il Fettong. Sicuro. Ah, è altro che sicuro, Ah, sono innamorato degli apparecchi. Sì, guarda, darei anche questo per il Fettong 808, non ne fregherebbe niente, guarda. Io lo metto in sicuro, Ma prima o poi già adesso quando arrivano i cinesi qua in Italia, vedrai, che me lo procuro. Questa volta non costa $400, ne costerà minimo 200 euro. Com'è che si chiama, hai detto? L'effettizio 808, Fetzong, per esattezza. A me interessa solamente quello. Avanti che hai tuo sicuro, Susanto, che l'ha fatto. Avanti. Sui, Antonello, Antonello, buonasera a tutti. Lo sapevo che eri tu, Marco. Mia moglie, quella fare che lui, guarda, ha regalato questa, ve l'ha applicata di quella, ti giuro, qua. C'ha un audio con l'apparecchio, cazzo, è una ricezione che se ne è fotte di tante cose, cazzo. Ma purtroppo cosa ti posso dire, è una donna irraggiungibile, bionda, con gli occhi celesti, la forma di sotto che è proprio esagonale. Bianco, un secondo, ciao Marco, ben sentito. Ciao Daniele, ciao Antonio Riserva, mi sembra, dai. Buonasera a tutti, sto tornando da votare. A che ho votato? Dimmi, ho fatto la fotografia. No, foto non ce ne possono fare, Antonio, del voto. Sì, magari una volta sì. Allora, hai votato il Movimento 5 Stelle, te lo dico io. Il voto segreto. Secondo te è segreto il voto? Perché alle 8 e mezzo, alle 9 di sera siamo già a me. Stavo telefono a casa di uno, a casa dell'altro, ha chiamato il voto, quindi lo siamo già. Voto Antonio. Allora mica, voto Antonio, così bisogna fare. Allora. Ah, sì, a Marco lo sento benissimo. Senza Daniele è tutto impulsato con gli ex. Ciao Claudio, ma una nuova radio è questa? Questa è una nuova radio, io ti ascolto chiaro. Allora, questo è il 9009, dai. Sì, vabbè, stai dicendo bene, perché sei normale, hai come corso normale, ma Daniele, c'è la radio modificata, non si capisce una mazza con questa che sto usando io adesso. Ma perché è stretta in ricezione? No, devo mettere tutti i filtri, stringere, allargare. Questo è un digitale, l'FT950. Devo stringere molto per sentirlo bene con la radio. Ehi, Acla, ti volevo chiedere, ma avevi buscato un K recuperato? Così avevo capito, ero all'ascolto, sommariamente all'ascolto, dai. Ho comprato, se ricambio invece lo sto mettendo a posto piano piano, la recensione e trasmissione ce l'ha già. Adesso devo ordinare il frequenzimetro tutto completo con lo Smith e poi rifare tutto tracciato, perché al buio, capito, non c'è frequenzimetro spento. E poi valore quanti condensatori ci sono da cambiare, quante cose ci sono da cambiare, l'auto anni fermo, però è nuovo, non è mai stato riparato, capito? Riprendi Antonio Riserva. Sì, sono qua, eccomi qui. Guarda, ho messo i filtri un po' più larghi, sento bene a Marco, a Antonello, so che ti sento benissimo, vogliamo Daniele. Qua, io così non so uscire, non ho altro qua. Ma solo questo mi costa, ma questa apparecchia, questo mi costa, non sono neanche i miei. Sono adesso ti ascolto bene, perfetto. Sto usando a 1500, sì, di due. Vabbè, siccome non sapevo come muoversi, perché io questa la uso solo in HF, capito? Allora, per esempio, la volevo provare in 27, ma è veramente molto bene. Il microfono normale, c'è il processore inserito, l'equalizzatore che c'è l'equalizzazione anche, c'è l'equalizzatore incorporato, questo qui sotto nel menu. Ho visto un po' di cosette, però vi ho sintonizzato meglio, vai. Ho mandato anche la foto di cosa sto usando, un po' l'hai vista. No, qua, perché io per vedere devo uscire in strada, perché qua la tua casa in campagna è luce. Allora, quando uscì di strada guarda cosa sto usando. Lo vedi. Va bene. Daniele, riprendi, vediamo se ti sento bene. Poi mi dici Marco come mi ascolti con questa radio. Cappa Daniele si è spostato un attimo. Allora, questa è una timbrica diversa dal solito, Claudio, però sembrerebbe buono se potessi abbassare un pelino, un micro pelino, prova un po'. Sì, questo c'è tutto in digitale, appare tutto nel display. Allora vediamo intanto quanto abbiamo il mitigation sul display. A 35, portiamolo a 30. Eccolo qua. 30. Adesso il mitigation a 30 sul display sta segnando. Ottimo. Comunque attenuato eri già migliore, attenuato eri già migliore. Naturalmente il noise blanker qua è tutto tolto, non ne metto più perché falsa le modulazioni, il discorso già fatto tempo fa. Buono, buono, sento ottimamente. La radio è buona, no? Anche leggermente amplificata, va bene. Sì, sì, niente da eccepire, difetti non mi sembra di sentirne. Ripeto, altro baracchino, altro altoparlante, prendila come. Prendila per buona, dai. Antone, tu e questo Feitong non ce l'avrai mai, non lo troverai mai. Quello è un HF marino, non lo trovi nemmeno in Cina. Vabbè, se non lo trovo, me l'ho fatto spedire, cosa vuoi dire? Claudio. Dimmi. Un giorno ne stavate parlando di questo Feitong, no? Questo apparecchio che Antonello idolatra, no? A parte che non ha l'FM. È un vero e proprio HF marino, no? E tu avevi detto, ma no, casomai un VHF marino, invece no, è proprio un HF marino, va da 1.8 a 30, perché anche in HF, quando sei lontano centinaia o migliaia di chilometri dalle coste, c'hai proprio una frequenza HF marina di controllo o di soccorso, adesso non mi ricordo qual è la frequenza. Solo che quell'apparato Feitong non ha VFO, non è la comodità del VFO, cioè i tastini up down per salire o scendere in frequenza, quindi per quanto sia fatto bene, c'ha filtri giapponesi, è fatto molto molto bene, però è una cosa rarissima, ce l'ha solo un radioamatore o due in Italia, pensa, e non lo trovi più manco dalla Cina. C'è un radioamatore che conosco io anche, che naviga parecchio, sì. La frequenza è 2630, 2600 comunque, a scendere, adesso mi ricordo se da 2006 a salire o 2006 a scendere, non mi ricordo, comunque sì, lo conosco. E vabbè, vedi, quelli sono stagni, quelli sotto, immaginate che nella barca dove siamo andati a tirar fuori, a smontare tutta l'attrezzatura con un collega radioamatore. In pratica tutta la strumentazione di bordo marina, veramente marina, quindi col scandaglio, tutto quello che c'aveva, è completamente intatta. Intatta vuol dire che è funzionante, anche perché non ha preso voce, non ha preso niente, nulla. Siccome questa è una radioamatore che ha venduto la barca, l'ha tenuta 8 anni ferma allo scalo di Olbia, perché aveva avuto una varia al motore, in pratica c'era questo cazzo di 440 dentro il cassettino, è chiaro che fortunatamente non ha danneggiato l'interno, però la radio era completamente morta, ma i tappi, i coperchi della radio non vogliono visti, sono completamente oscillati, infatti li ho già smontati e portati a rifare tutti nuovi, capito? E nel frattempo stavo cercando con le mie piccole possibilità di riparare la radio, ma io sono già arrivato alla fine, quello che l'ho fatto in trasmissione, ricezione va. Adesso si tratta di far salire il segnale, mettere display, cambiare condensatori che vanno cambiati, eccetera, ma non è compito mio quello. Dovevo portare dal tecnico e farla sistemare tutto, capito? Riallineare tutto quanto. Però dico, non si mettono con radio HF in barca, ci vogliono radio marine per la barca, non radio HF normali. Sì, dimmi Robert, Santiago Nuovo Radio 5, questo è l'FT950 digitale, Santiago Nuovo Radio 5. Quasi 9+10. Ciao Roberto, ben ascoltato dopo tanto, te lo volevo chiedere se funzionava ancora quel baracchino, ma te le immagini il calvario che ha dovuto passare, Claudio già lo sa di chi, no? Montagnani, e poi era un trimmer bruciato, ma te le immagini, ha 8 mesi per non fare nulla, perché non gli hanno fatto nulla, e Roberto in penso 10 minuti l'abbiamo messo a posto, vabbè. Vai Claudio. Ma Roberto, io lo so, la capacità che ha, non ti preoccupare. C'ha molta pazienza, voglia e città, quindi basta quello, perché come vedi io in quel 440 non sono niente, perché avevo voglia di vedere, di fare, di capire se ho riuscito almeno a farla andare in trasmissione, anche se la ricezione è un po' scarsa, ma è chiaro che è scarsa perché ci saranno scolette, condensatori e componenti da sostituire, però intanto quando uno ci si mette nel piccolo riesce sempre a fare qualche cosetta, vai, niente di che, però qualcosa la fai. Roberto già sapenta. Va bene, vai, vi lascio un attimo che è arrivata gente, se mai ci sentiamo dopo. E cambio ancora per te, Roberto, poi fai giraretto per Marco, vai. L'ho presa le mail, e cosa ti voglio rispondere? Ho visto il numero del telefono, me lo sono segnato dal telefonino. Va bene, d'accordo, vai. Ah, non ce l'hai il mio numero, porca miseria. Vabbè, vai, ti faccio uno squillo col mio allora, va bene, d'accordo. Venga, mi fa piacere che sia tornata a vivere con la radio, perché lì proprio non l'hanno neanche toccata. Francamente poi in macchina era rumoroso come apparato, mi trovavo un po' male. Dai, io non voglio monopolizzare, tanto adesso devo mangiarmi qualcosa. Rilancio per Antonio e poi vedrò se è rientrato Daniele pure. Dai, vai Antonio. Sì, Sassella, però io non ascolto l'amico, quindi non sapevo cosa dire. Avanti. Ci sono Marco, ci sono. Amidosi. Gianni il Caldo. Noi? Ma con non lo facciamo meglio con la colla. Abbonato ero, mamma mia, vabbè, ciao dai, ciao a tutti. Sera a tutti, dai. Dove via stai, Marco? Devo mangiare, devo far colazione già. Che colazione? Mi parli di cosa? Che colazione? Pronto, sto facendo, Ti ha fatto la cena, ha fatto il rugo. Bobo, devi ritirare anche. Mi hai fatto tutto in giro, capito? Va a ritirare i soldi. Verso le 2:30 del mattino, dopo che hanno finito, capito? E quindi ritira con un cazzo. Pure la mattina appena dorme. Ciao Marco, ciao Gianni, ben entrato, avanti. No Dani, mi senti tanto, dai, mi stavo togliendo gli occhiali che l'avevo sesso, ho messo sdraiato 5 minuti così mi riposo un po', che tutto il giorno non ho riposato. Mi sono alzato anche presto perché dovevo andare a votare, quindi mi sono alzato presto a portare il cane e poi sono andato a votare. E via quella già nel mezzo, Sei andato a votare anche tu? Certamente ti ho votato, sarà fine, il primo. Per voi si immagina. Sono uscito dalla lavoro e sono andato a votare stamattina. Sì, oggi l'alternativa era o stracciare la scheda in sede elettorale o votare qualcuno. Infatti io ho votato qualcuno, l'unico che mi è sembrato è, però non è che ho fatto granché. Poi sapete come la penso, andrebbero fucilati tutti, sinistra, destra, centri, messi al muro e fucilati tutti. Poi però chi ci mettiamo? Ci mettiamo Pomponio. Vota Antonio. Brutto con il cazzo, però qualcosa la potrà fare per noi. Oh, Antonio. Allora, il microfono di quell'857 usciva molto peggio di come lo senti adesso, molto molto peggio. Avevo fatto una modifica suggerita da un radioamatore per farlo uscire almeno decentemente in AM, cambiando un condensatore e cos'era? Una resistenza. Non mi ricordo qual era il radioamatore, però due componenti ha migliorato tantissimo, se no era tribula la cosa, ma proprio brutta. Eia, l'ha voluto a tutti i costi, io gliel'ho svenduto. Aspetta, Anto, ti sento cupo però, barattolato. Tu invece hai detto che ha parecchio che usando adesso. Allora, CRT 9009, CRT SS sta per Superstar 9009, piccolo, nero, brutto, digitale, sembra, sai cosa sembra? È presente l'857, questo di forma è quasi uguale. Sì, l'ho intravisto, 2009. Hai il 6009? Sì, sì, l'Essence 6009. E io ho il gemello, tu ce l'hai display blu, io ce l'ho display rosso, rossiccio, ambra, una cosa del genere. Ma poi sono tutti uguali questi apparati. Bah. Effettivamente sarebbe tipo il tutto, però con display più largo senza l'emitter analogico. Sì, ma poi i componenti di questi sono tutti SMD, non te ne escono gli occhi a lavorare su questa roba, non che io lo faccia, assolutamente. Vabbè dai, riprendete voi, non voglio monopolizzare. Ciao, a dopo, ciao. Ciao, buona colazione. Pomponio sta lì. Pomponio non sa manco che bande ha quello, mi. Quello è HF 50 V e U, tutti i modi di emissione. Solo con l'entrata, da me comincia, a chi è? C'ero io che ho detto porta le paste a Marco che sta facendo colazione. Sì, no, no, non è di tu già, è a te rubescio. E che a me rubescio non mi piace. Tutti questi figli, non è a voi, tutta la prima volta. E poi se non provi non lo puoi sapere se ti piace, magari scopri un nuovo mondo. Guarda, dopo lui lo dà così. E io prima o poi dovrò provare, no? Tutta la radio che c'hai anche, ce l'hai così bella con la trapparazzo, questa qui pare che si fa mettere con un coso, dentro un bicchiere, e da quanto accuffa, però si capisce quasi le parole. Lo so già, Nero, però non può avere 4,40 nella casa che vale. Senti l'altro, il 6009. C'è stato quello da Cristian. Cristian ce l'ha già. E tu lo prendi, gli dicevi, quando ti metti l'antenna e tutto quanto te lo do e te lo continuo a usare. Ma se per quello, avevo prima di utilizzare questo, avevo il 78 plus, che si fa benissimo nel radio. E l'ho lasciato a casa, vedete che non lo riporto giù. E questo 48 l'ho messo in cantina. Questo non mi piace proprio, la verità, ce l'hai chiuso la radio proprio, cuffa. Allora, non ti avevo mai sentito con la radio così. Andava, vabbè, poi, vedi tu. Io ti sto dicendo il mio parere. Già, poi ti apparecchi così, mi dà la 48, quando non modifichi, sì. Non lo devo mettere nel microfono più cercato, devo usare il suo microfono, punto e basta. Fate così, basta mettere un microfono della Midland, costa 12 euro e va benissimo. Lo so, ma siccome la parete non è il mio, e io ho finito di farlo l'altro giorno, il microfono non ce l'ho, io metto questo microfono più a mezzo che c'è la casa. Ah ecco, vabbè là, comunque. Io sto usando quello della, cioè praticamente CTE all'interno e Midland full, perché la cassa del CTE mi era caduta e si era spaccata, quindi ho messo quello della Midland che è uguale in Index. E già che lo stavo cambiando, gli ho cambiato anche il cavetto, gli ho messo quello più elastico, dai, quello più morbido e lungo. Infatti, che fa che c'è un microfono CTE uguale a quello Midland? Sai che dicono, se la nera con la griglia tipo l'originale del tutto. Sì, così è così. È normalissimo come microfono, come esce, bene va. Sì, ma lo fa anche la media, non è che non l'avevo mai visto. Ma, ah sì, l'avevo visto marchiato CTE, uno marchiato, non fa marca, non mi viene in mente. No, è Midland, altro, te lo assicuro io. Andava. No, comunque va bene, dai. Io ho chiesto diversi pareri, non è tutti che va bene. Guarda, sì, lo fa uno dei vinti con la lata ieri. A capsula mi sa che gli ho cambiato. Io non lo so cosa tutta Giovanni. È un incrocio tra due primi club. Bene, bene. Daniele? Chi mai ci sono? Riprendi tu, caro, tu stai a prendere a Pomponio. Capa Rogero, Antonella, ci sei? Sì, ci sono, ci sono. Faccio un attimo di sbianco. Già rientro fra 5 minuti. Capito? Sto smontando il motore della come si chiama? Della parabola che usavo per la direttiva io. Così me lo rimettiamo un po' in sesto. Lo sto regalando a coso a un amico. Vabbè, ci siamo fra 10 minuti. Devo passare l'auto sbloccante per per i bulloni e poi arrivo subito. Cosa stai smontando, Alessio? Buonasera. Ce l'ho, il motore da tre system, capito? Quello per la parabola. Siccome si è inchiodato, si è spaccato la parte centrale di sopra, capito? Perché la terra pesava. E quindi con vento picchiato, non è che si è spaccata così, perché di sotto non si spacca. E il materiale tipo ferro batte vite dove lo vogliava. E quindi adesso lo voglio sostituire, adesso si vedrà. Adesso al limite se si può riparare, si ripara e si fa saldare. In modo che possa ritrovare come prima. Il motore funziona bene, è sotto. È solamente roba di. Si è inchiodato la parte di sopra e basta. Paga. Antu. Andale. Bene, bene, pompone, smonta. Comunque ce l'ho volato quel motore, già sopra il tetto. Gira una direttiva a destra, a sinistra, senza fargli fare tutti quei gradi, naturalmente, lo sai, no? Quella per la VU. E pesami quella pesa 3 kg pesa. L'unica antenna che funziona bene, l'altra la X300 non va bene qua a casa, invece in casa degli altri sì, perché io ho dato la X30, l'ho provata e la stessa cosa, ho dato la Rico e funziona benissimo, è un treno. È questione dei fantasmi già, no, è questione che quando metti tre antenne, una attaccata all'altra, ti crea problemi, capito? E quindi non fa, vuole almeno spostare almeno di 2 metri dall'antenna principale e sollevata almeno 3-4 metri di palo, se vuoi che venda. Quindi l'X30 è salata neanche un metro, l'X300 è un metro e venti, se non ricordo male. Bene, bene. Andare là, faccio bianco, ci sono fra un po', già dentro dopo. Ok, Antone. D'accordo, c'ho un coso all'Antonio se gli interessa. Se sta facendo un impianto ancora per barca, c'ho un geo nav da vendere, capito? Senza il cavo a 15 punte, 50 euro, è nuovo. E come sei a cavo? Ah? E come sei a cavo? Sei sempre a cavo di dietro, Il giornale è nuovo, perfettamente funzionante. È stato staccato dalla barca e poi mi è stato regalato. Non è una roba rubata, capito? La barca l'hanno in pratica, hanno lasciato i cavi con tutto quello che c'era. E già in lampada, hai capito? A me hanno regalato questa cosa qua. E non ci ho pensato io. E poi il cavo dove sono? Dice l'abbiamo lasciato in una barca, mi ha detto. Me ne faccio così, ho detto. Siccome ho visto il prezzo che costa 700 passa euro col cavo, quindi ho detto se qualcuno mi serve 50 euro va bene, solo il monitor. Poi lui si aggancia i cavi, si aggancia quello che c'è da agganciare, perché mi sembra sono 15 fili se non ricordo male, a parte l'antenna. Infatti l'antenna è il problema da recuperare, non tanto lo spinotto. L'antenna preso la banca, l'avevo fatta smontata, non l'avevo rubata. Allora non ci ho pensato io, cazzo, fammi dare anche l'antenna e i cavi. Mi ha dato così, dice, allora vuoi Antonelli, cioè ti arrangi e te lo vendi. E tu vabbè, chiedevo a qualcuno. E invece mi è rimasto, capito, di qua a casa. Se qualcuno vi serve, magari che ce l'ha, se lo vuole cambiare, magari perché c'è il monito che ha fatto, cosa del genere, fammelo sapere. Ti vado là, cioè, vieni, te lo guardi e poi deciderai se qualcuno vi serve, se lo vuoi trovarlo, per 50 euro, o lavoro di Dio. Va bene, basta, avanza. Ok, dai, ma non è stato un amico. Se interessato ti faccio sapere qualcosa. Perché conosco uno che ha due smontati. Vabbè, D'accordo, d'accordo. Adesso vado, lasciamo l'avevo consegnato a Nico. Adesso vado un momentino e lo porto a casa. Se quello mi serve, vieni qua, te lo guardo, è nuovo, nuovo, nuovo, non ce l'ha con graffio. Quindi figurati. Lo fai sapere, per 50 euro sono il monitor. Cioè, e questo da una parte l'hanno buttato in pratica, non l'avevo rubato, è buttato, me l'ha assicurato che me l'ha dato. Infatti ho detto io l'ho rubato, non è muglio, ho detto non ho finito in galera per nessuno, grazie a Dio. Ho 56 anni, ma l'ho cazzato, non voglio finire in galera. No, no, no, tranquillo, dice la banca l'abbiamo, dice, svoltata tutta, distrutta, l'antenna, dice, ce l'abbiamo buttata, ce l'abbiamo buttata anche, addirittura anche VHF, mi ha detto vai a fanculo, gli ho detto. Poteva darmi anche il VHF, dato che c'era, no, quello mi ha dato. Sì, la fritta, conta quanta l'acqua che si prende per carità. Non le tiene bene, con le corrosioni durano 3 anni se non fanno attenzione. Vabbè, manco il BL è iniziato. Ma c'è quando lavorava con Marco Vicchi, quando aveva ne capitato a casa. Ma l'ho lasciata lì dove era, imbecille io. Quando sono andato giù a Calassetta, per fare un capo di Giurubari, ci ho lasciato il... L'unica cosa che mi sono comprato su sono i dipuri. Poi ci ho lasciato giù 15 apparati, ci ho lasciato, da portarti lì è stata la base. Il cavo del 58, hanno fatto un impianto, avevano fatto un impianto, tu figurati, 3 anni prima. Lo uscivano con la Vespa 50 e con l'apparecchio attaccato alla Vespa 50. Visto, no, io ho ancora conservato un reggio verde di cui si usavano marini allora con la ghiera grande VHF, che li vendevamo con la parola da Teatronic, allora, di 3 milioni. Sì, il reggio già me lo ricordo, c'erano quelli bianchi con la tastiera, portatevi, poi c'erano quelli verdi con la tastiera, con la cornetta, e c'erano dei apparati. All'interno si poteva anche telefonare in un periodo, poteva chiamare la capitaneria, capito? E quindi ti passavano la telefonata, se ti metti tutto in diretta, cazzo mi sputava letto, cazzo, Maria, la fidanza non la usa, Maria. Già, mi riprendi. Allora, io ho voluto andare al mare oggi, ma... Questa bella giornata, ma non posso. Certo che c'è al mare oggi. Andate a prontare le chiappe chiare. Io sono andato a tu bisogna andare al mare per vedere le chiappe. Io sono andato stamattina fino a mezzogiorno. Beh, ti vuoi. Chi vi chiama? No, non ti riesco a capire, sei tutto saturo, sei come fuori frequenza. Sento, ma sei fuori frequenza, sei tutto quanto saturo. Ti sento. Capito nemmeno chi è qua, sinceramente. Buonasera, Q. Luca. Io ho capito, senti, puzza di bruciato. Ciao, Lucarie. Luca. Mi sembra chiara, ma poi è il gelso. Cariella. Questo è tutto della via mola, è un pigliere, non se ne va più. Chi è la fischia? Chi è che vuole entrare? Avanti. Vabbè, dai, non sapete di nessuno. Ma quando troppo, quando nudan tu? Mi hai visto, adesso ha parlato pure Gianni, avete parlato in due. Se Gianni aspetta a me a parlare. Gianni, fai da bravo che calpesti Antonio. Gianni! Sì, io ho detto, parla tu Daniele che la voce è bella. Sì, stupenda proprio, guarda, sex symbol. Vabbè, adesso. Ma io devo andare dei baci. Antonio, io ogni giorno quando vado col cane in giro che cerco i finocchietti, cerco anche Antonio. Oh, che male! Ma non tu che sono tutti diciamo le carotte, Io li prendo ogni mattina per le cavie, però, non per me. Mica vuole entrare Luca. Luca, stavi dicendo? Non ti comprendo. calato di apparata io. Ma Luca è un FM. Sì, è un FM, che a casa. Ma non ce l'ho. Luca! Adesso così sul balcone, ma le dambe stazionali, quindi io. Luca, cambia con la storia di scopa! Luca, prova la falcone! Ciao Giulio, mi hai sentito? Ciao Daniele, a Luca di cambiare quel bastone di scopa che ha per l'antenna. Ciao Giulio. Ciao, ciao Antonio, ciao Gianni, Marco. Ma che devo ricordo c'è anche, Eugenio c'è anche. Eugenio, c'è sì. No, non c'è, vuol dire che è sulla nave adesso. Perché non siete andati a mare a abbronzarvi le chiappe chiare? Cosa ci fate qua a quest'ora? No, tramontato giù il sole. Mamma mia, tramontato a quest'ora. Vi alzate presto la mattina e andate presto presto, vi mettete in bikini, vi mettete e vi abbronzate bene. Sì, ho fatto presto stamattina, ho un rastrello. Nudo, ho pulito tutto, quindi sono andato a passeggiare. Con le mani in tasca. Hai fatto bene, guarda. Così ti sei arrossato un pochino. Infatti, adesso devo stare attento. E allora, ti sei bruciacchiato. E beh, Gianni, io metti a piombo questi ragazzi, Gianni. E via. Una parola è giù, mi stai chiedendo troppo. Capita, così costruiti sono. Dai, non è così difficile, no? Capitina. Luca, vediamo se riesco a sentirti. Poi Daniele mi spieghi come facevi a sentirlo quando io non lo sento proprio per niente a Luca. Luca, ci sei? Giulio, mi senti. Cosa ha detto già? Tu lo senti? Ha detto Giulio, mi senti. Sento io quasi qua. Non lo sento io qua. Vedete l'antenna è portata. Lui ha un'antenna nel terrazzino, attaccata alla ringhiera. Per cui non è un'antenna performante, no, anzi non è mai stata performante quell'antenna, perché è un'antenna di barca che funziona solo esclusivamente col piano riflettente del mare, l'ho sottolineato. E Roberto Quadrato ce l'aveva al mare, nella cabina andava bene, lo sentivo. Quelle antenne lì balene di manganelli, quelli che usa la polizia. Ma basta fare, non l'ho fatto io. Anche anche lo riserva ce l'ha, non se ne fa la vergogna, che bubu. Ma io l'ho modificata, però mi ho messo anche la bacinella piena d'acqua. Ma quale? Luca o Marco? Guarda che se uno poco poco ci pensa un attimino, adesso prendiamo il caso di Luca. Luca ce l'ha sulla ringhiera, praticamente ce l'ha sulla ringhiera del terrazzino. Sarebbe un punini, due luci, una lampada all'altra, e ci metti un dipolo, ci metti 2 metri di filo e ti fai l'antenna, esce sicuramente meglio, anche se esce in orizzontale, ma esce sicuramente meglio di quell'antenna lì. A te non ti capisco bene quello che dici, hai una radio molto cupa. Comunque ammetto con vergogna che ce l'ho anch'io la bazooka della Midland. Ciao Marco, anche tu ci sei. Ma lo potevi dire, potevi farmi uno squillo, no? Stavo facendo colazione. Colazione? No, lui a quest'ora. Davvero, a quest'ora lui fa colazione, è vero, non sta pranzando, sta facendo colazione, hai ragione. Poi infatti stavo per portare le paste. Io, magari. Comunque la bazooka è l'onfia, però rispetto a Luca qui a 1 metro dal muro stazionaria non ne avevo e non ho seguito le misure del cavo, stazionaria nulla, però non irradia, è un carico fittizio quell'antenna, non dovrebbe nemmeno venderla né la Midland né nessuno. Quella è un'antenna, guarda che io ho letto le caratteristiche per filo e per segno di quell'antenna, ho letto, è un'antenna che si può montare solo ed esclusivamente su una barca, perché ha bisogno del piano riflettente del mare, sottolineato, non del terreno, del mare. Allora ora potrebbe anche uscire, ma così non uscirà mai. Sì, vabbè, ma io se c'è anche una frase marina sul tetto, funziona bene, perché se la io deve funzionare bene in terra. Cosa ha detto Gianni? Capito, ce l'ha detto adesso. Ho scritto, adesso io ho anche una frase marina, no? Piazzata su un palo. Dentro un bicchiere sta parlando giù. E c'è quella là? Sento un trombone. Ma è dentro un bicchiere, davvero? Andata per essere marina, se lo sono messa bianca. Perché non deve uscire bene? Ah, vabbè, ma uno è VHF, ma io, il discorso è diverso, quanto. Questa antenna qua l'ho utilizzata in 27 perché è costruita per la 27, però io ho letto specificamente in un dépliant di antenne che quella è un'antenna costruita esclusivamente per le barche, perché può funzionare solo esclusivamente con il piano di presenza del mare, dell'acqua. Poi non è escluso che possa anche funzionare essendo messa in una certa altezza, ma in campo libero, ma dove c'era lui attaccata alla ringhiera del terrazzino, che è coperto dal muro della casa e di tutte le case che si ritrova attorno, ecco il motivo per cui non esce. Radio. Daniel, aiuto. Chi vai? Stavo parlando con mia moglie, un attimo. E tanto? È tanto, è valsere, non è tanto, è un valsere. Mi sono perso ascoltandovi qua. Comunicazioni qua da ridere, comunicazioni di servizio c'erano. Bianco. Non è stato niente, Daniele, non ti preoccupare. Bianco, in bianco sei a tu. Ciao a Rogero, ok Antu. Luca Riera, ci sei adesso? Tutto bruciato. Io ho capito, lo so, lo sento puzza, è bruciato, con bruciato, non lo so. Strano, ma vero. Cava. Forse è meglio quella, Giulio. Ah beh, sicuramente. Io ce l'ho una boomerang, quella cortami, quella frustavera. Però funziona bene anche. Ma se poi non c'è la radio da portarsi dove sta modulando adesso e punti a capo. No, che la boomerang si può mettere anche attaccata al tubo. Metti un pezzo di tubo e una ringhiera e puoi attaccare lì. E funziona. Altro che ce l'avevo io. Io l'ho avuto anch'io anni e anni. Adesso poverina si è rotta quella vecchia che c'avevo io. C'avevo la 94. Pensa tu, sempre in Kiwi. Oia. Però Luca è fuori frequenza con quell'apparecchio. Allora non è solo cosa di antenna, è anche cosa di cosa, di baracchino. E allora il discorso, ecco, è più complicato così. Per quello che ho detto, non è solo l'antenna, no. Ma prendi un'antenna e punti a capo. E allora è peggio andare buio. Capita, allora è inutile. Se siamo in quella situazione è chiaro che sarà sempre più difficile, è ovvio. E vabbè, d'altronde, Luca, lo vedi, sarai più fortunato la prossima volta. Io Gianni doppio room. Non sono molto in vena stasera, sono molto stanco, c'avevo gente a casa, a pranzo, eccetera, quindi ho lavorato. Ho capito già. E vabbè, allora riposati un pochino, volevo chiedere, ma non si è più sentito l'ombra effetta, come mai? Tutto ha bruciato questo. No, già ogni tanto già si sente. Ho sentito su 45 anche l'altro giorno. Ma io non l'ho più sentito. Infatti, no, siccome avevo saputo che avevo qualche problema anche di stazionari, dell'antenna, eccetera, poi non lo so che cosa ha combinato, poi non l'ho più sentito, ma tutto questo lo risale già più o meno ad una settimana fa. E poi ha risolto la porta con l'antenna messa all'altra di nuovo. Ah, ho capito. Ho capito, allora già in condizioni di trasmettere. Io Marco, facci sentire, facci capire se hai preso un caffè stamattina. E anche Franco di Sorsi hanno presentito. Marco, escine fuori. No, sento segnale da lontano. No, no, caffè non è, sto limitando l'uso del caffè, Giulio, perché anche quello influisce parecchio su tutta la maradanna. Poi per Gianni ho finito di farmi le pere, finita la cura, accantonata l'ance, la devo anche restituire, l'iniettore, come la devo chiamare, l'autoiniettore. La siringa, diglielo chiaro e tondo, se no Gianni, siccome oggi è un po' stanco, non connette bene, digli la siringa, diglielo chiaro. Già l'avevo capito. Mi sembra così strano che la debba tornare, perché quelli sono usa e getta, mi sa. Non ho capito perché. Vabbè, comunque interessante che abbia finito la cura, dai. Speriamo che vada tutto bene, te lo auguro almeno. Sì, che poi non era obbligatoria, era per pareggiare i livelli ormonali, punto. Ma non era obbligatoria, io l'ho fatta tanto per consiglio dell'endocrinologo, sì. Allora, la rappresentante mi ha detto così, che andava tenuta benissimo, poi restituita, forse la disinfettano, la sterilizzano, infatti non ha un graffio, e poi forse la danno a qualcun altro che ne ha più bisogno. Vedete gli effetti collaterali di quella medicina? Ti rendono impotente, lo sai. Ma a parte che io sono già impotente, quindi non mi fa nulla. No, vabbè, no, quello è un ormone sostitutivo, quindi non fa. Oggi il testosterone già è basso, però per quello già c'è l'iniezione mensile, che, capito? No, già è potente come futtidini, è che non c'è la materia prima che aspetta. E allora tu vuoi adesso troppe cose? Piano piano, Tommaso, prima la terapia, dopo la materia prima. Allora c'è la piaccia, le dolce. Cerca trova, Marco, se ti stai in casa adesso non c'è più materia prima. Devi uscire, darti da fare. Guarda che c'è una sola zittella, ce l'ha voi, te l'ho detto. Com'è buona, passabile. Un po' di baffi, cioè non si depila molto, comunque già è bellino, eh. Guarda, se respira è fatto. Respirerà, cosa ne so io? Un po' così, io lo dico sempre. Solo che piacciono i baffi, allora si rilascia. Va bene, mi si è aperta una finestra, Antonio. Giorni fa si parlava di quell'antenna ridicola con i radiali da 30 centimetri, quella famosa, come si chiama, Sigma Eurocom Venom. Allora ho letto le recensioni, praticamente chi ce l'aveva sul tetto, dopo 10 chilometri il nulla, non andava oltre 10 chilometri, come dire, da qui a, non lo so, a San Giovanni. Ma dice che si quanti la loda, la Andrea, la Santella, io ho visto recensioni anche su Facebook, persone che la utilizzano, anche qua che regga l'attore, che la utilizza veramente, per la 26, non c'è in vita. Fanno molta pubblicità loro, perché è un prodotto nazionale, però poi inutile. Persino la Energy è migliore, cioè quella arriva al Ghero, arriva a Sintira, Pro Torres, vabbè, io sono limitato qua, se no sarebbe anche meglio. Vabbè, riprendete però, dai. Sono al dolce adesso, ciao. Sì, la colpa di Giulio comunque, perché dove sta Giulio? Costruisce l'antenna alla pesca. Quindi io non voglio mettere in pensione. Ma perché tu non te la puoi fare? Chi lo dai le mani tu? Devi tu lavorare, non io. Io ormai sono in pensione. Ma vedi la risposta? Dopo dicono perché dopo prima va in pensione si cala, di tutto, perché vedi, non ti vuole fare niente. Guarda, io una mia me la sto facendo, un'altra me la sto facendo. Per cui io non mi posso, ormai io sono in pensione, se quando faccio qualche lavoro lo faccio solo ed esclusivamente per me. di qualsiasi genere, sia di antenne, sia di falegnameria, sia di muratore, di qualsiasi cosa, solo esclusivamente per me questo qui è un sistema. E se io incomincio a lavorare per gli altri, allora non finisco più, allora non mi posso considerare in pensione. Antu, che verifiche siete voi pensionati? Io non ti posso nemmeno rispondere, perché devo essere sincero, tante volte non ti capisco con la radio troppo malatolosa che hai. Ma Gianni, rispondimi tu, fammi la fonte. Cosa dico, cosa dico? Sono come due drummiti. Marco, cosa stavate dicendo, perché era sul pizzo, dai, era un po' sul pizzo. Ciao Claudio, con che apparato stai uscendo? Che la voce è diversa. Claudio? Ho guardato a scatto una volta. Ho fatto la modulazione. Cosa c'è più che sei, stavo uscendo, mi sembra. No, io l'avevo sentito ieri, usciva benissimo. Diversa, perché non era amplificata, però usciva benissimo. Oh, stavo facendo il logo da 4.008. Buona. Daniele. E chi me? Anche tu stai facendo una mamma con Gianni. No, santo, che qua mi stanno parlando 20 persone e non capisco più niente. Attenzione, le 20 persone che stanno parlando con Gianni. Sì, con Daniele, si sta parlando a parte. Dimmi Anto, qua c'è il piccolino che parla, la moglie che parla, tutti che parlano. Ma va bene, non è che parli, no? Non sono motivo per soggiungere. Sì, ma è bello che tappano qua, poi non capisco più nulla. Hai ragione, io non credo. Perché vengono alla destra? E vorrei vedere, capita, che tu dai la precedenza al baracchino e non alla famiglia, ma pure in disegno, poi, Daniele, fai bene. Gianni, sveglia. Oggi sono sveglio, sì, mi sto ascoltando, mi piace ascoltare. Oggi non sono in grado di parlare, dai. Ti ascolto, qui se magari si muove un po' la frequenza, che entra qualcuno da fuori, cose del genere, mi risveglio, dai. Stamattina non c'era nessuno dei dintorni di Sassa, eccetera, e c'è la preparazione. Ho parlato con la Serbia, con la Romania e con la Spagna anche, qualche collegamento così veloce. Quello della Serbia, ragazzi, in FM eravamo, però non in AM, in FM. Quello della Serbia mi arrivava addirittura a fondo scala, una potenza micidiale, si vede che era qualche radioamatore, anche perché per come parlava usava il linguaggio radioamatoriale già. Vabbè, magari non sapeva parlare italiano. Anche io l'altro giorno sul 45 ho fatto un po' di collegamento. Ogni tanto qualche collegamento si fa. Però in Italia, Palermo, tutta quella zona lì. Mi sentivano anche bene, la verità. No, già ne ho fatto anche un collegamento. Ma un po' ti tengo su, capito? Quando vuoi vedere se arrivi, se non arrivi. Stasera un po' è, diciamo, per me è un po' budribula. Ho lavorato forte e mi sono stancato molto. Io per la gamba non posso lavorare così e purtroppo mi fa male adesso, non riesco manco a muovermi. Ok. No, ieri con l'Italia, vabbè, ci ho parlato ieri io anche con la Spagna. Poi c'erano tante stazioni straniere, tipo francese, anche inglesi, che io non ci posso parlare con quelli perché non capisco l'accidente di quello che dicono. Magari faccio la chiamata, quando sentono Italia rispondono, ma io poi non posso rispondere perché non capisco l'accidente di quello che hanno detto, però capisco che mi hanno sentito. E vabbè, no, con la sedia 9.5 e Radio 5 mi sentivano stamattina molto bene, in FM eravamo, E questo no, ti stavo dicendo che quello lì era sicuramente un radioamatore, perché mi ha elencato tutta una serie di cose che solo un radioamatore può avere. Intanto stava trasmettendo con uno alla radio professionale Incom, adesso non mi ricordo la sigla, e poi tante altre cose, insomma, era, si sentiva che era un radioamatore. Poi gliel'ho anche chiesto, per cui se mi era confermato. Allora vabbè, era un radioamatore. No, io quando l'altro giorno con la Silvia era qua che ci ho parlato, arrivavo anche bene anche qua. No, ma oggi proprio ieri no, ieri proprio c'era solo l'Italia, non c'era la gente di Fulda. Appunto, è quello che mi convince sempre, cioè che mi fa ritardare lo spostamento dell'antenna. È sempre quello il problema, ci sto sempre pensando, ma devo essere sincero, non è che ne ho molta voglia di salire, anche perché non voglio fare nessuno sforzo, eccetera. La causa, già lo sai, per fare è il motivo, e dunque non ho, è per quello che l'antenna ancora non l'ho spostata, però la dovrei mettere al suo posto, perché quello dove adesso non è il suo posto. Già mi capisci cosa intendo. Ma per tuo genere non ti può aiutare? No, non chiedo niente a nessuno, sono tutte cose che io ho sempre fatto da solo, e dunque, anche perché io sul tetto, quando avevo costruito la casa, sui muri perimetrali, essendo in adiacenza a Coso, con le altre case che ci sono vicino, ho fatto la passerella sui muri perimetrali, e dunque salgo lì, passo lì. Io sulle tegole non ci passo mai, non ci devo passare, perché mi avevo fatto la predisposizione per poter passare sul tetto per andare all'antenna, sia all'antenna del baracchino che all'antenna della televisione. Per cui non è quello il problema, però sono io che non voglio fare il minimo sforzo, capito? Tu pensa che mi vogliono un aiuto addirittura per fare la spesa qui a negozio generale alimentare, ma solo per precauzione, basta, ancora per un po' già, poi già ritorniamo come prima. E io ti auguro di tornare anche meglio di prima. E vabbè, se non se ne ha voglia, non se ne ha voglia, io ti capisco perché sarà la stessa situazione. E mi stanco subito, faccio una cosa e mi devo riposare, poi riprendo, mi riposo di nuovo, mi stanco di nuovo, mi fa male di nuovo la gamba, guarda, non vorrei augurarlo a nessuno quello che ho. Vabbè, non fa niente. Io rilancerei tutto quanto a Marco Condo, vediamo se si è mangiato le pasta. Ehi. Già, che te devo dire? Nonostante uno magari non fumi, non beva, gli accidenti quando devono arrivare arrivano. Quindi tanto vale bacco, tabacco, venere, tutto, droghe, tutto. Vabbè, però se ti razzecchi è peggio. Diciamo che uno cerca sempre di limitarsi in tutto, ma non è quello il problema. Il problema è che il lavoro che ho fatto è stato sempre molto pesante, ho lavorato molto sulle gambe, sulle braccia, sulla schiena, e quindi qualcuno mi diceva: da voi un fisico di domanda un conto, e ogni volta che io ho dolori penso a questa frase. Brutto, ma è così. Già ti ricordi una certa, no? Dopo una settimana io mi disoccupo Gidumi, era la stessa cosa tua, ho detto no, non è per il mio fisico. Tu pensa che io ne ho fatto 38 anni di quel lavoro, non ti riguardi. Adesso vabbè, sono fermo. Però 38 anni di lavoro li ho fatti. Ma io sento parlare qualcuno, chi è Santiagotto? Questo qui è Roberto di Alghero, mi sa, c'è una rotta Alghero sicuramente. Roberto, ci ascolti? Ah vabbè, stanno parlando in locale. Giulio, stai parlando di quelle antenne là, nautiche, guarda che c'è la stessa antenna, però per i camper, anziché bianca, è nera, sempre 1,10 m o giù di lì, della Midland, ed è un vero e proprio carico fittizio. Sì, non ha bisogno di massa, non ha bisogno di... non ha stazionarie, proprio non ha stazionarie, però la resa è drammatica. Se cosa vuol dire drammatica? E costa ben 45 euro. E praticamente i camper con quella possono usarla solo in colonna oppure per parlare in teggio all'interno dei campeggi, dei camperisti, non serve a niente, l'ho provata io a Piazza dei Segni, dalla Terroccia non arrivavano quasi, erano Santiago 1. Se lo sto dicendo, Marco, che non seguo, ma da sempre, però non è da adesso, già da anni che io la conosco bene quel tipo di antenna. È un roccio di cobol, giusto Marco, è un roccio di cobol, cosa mi sa dire, antenna quella, per carità. Io, se fossi stato io con chi l'ha progettata, mi sarei vergognato, perché quella è un'antenna da poter utilizzare. Sì, ma infatti tutti usano, i camperisti usano antenne normali, a costo di fargli la massa riportata, chi la aggancia al paraurti, chi al cofano, chi sul tettuccio, magari antenne piccole, però almeno funzionanti, corte sui 60 cm, 70 ma funzionanti. Quella è una porcheria, è un furto, che poi se tu la guardi esteriormente sembra una normale antenna, però se vai a guardare dove c'è la bobina, la base, è strana come è fatta, c'ha come delle saldature, è fatta apposta per non avere stazionaria, ma è un carico fittizio, è proprio una cosa inutile, vabbè, contenti loro. Ragazzi, riprendo io che sto chiudendo, dai, sentiamo alle prossime se coincide. Ciao Daniele, ci sentiamo, buona passeggiata. Ok, ciao Daniele, ci sentiamo. Dopo dai, vi saluto anch'io, dopo se ci siete, adesso vado a votare, dai. Mi vesto, perché sono in pantaloni corti, dunque vado a votare. Io l'ho fatto stamattina, è il primo pensiero che mi sono tolto. Ehi, giù. Ciao Daniele, ci sentiamo. Buon voto, eccetera, eccetera, dai. No, ciao Giulio, ciao anche Daniele. Oh Marco, ma tu votato hai? Sì, l'idea mia era stracciare la scheda in sala elettorale proprio, però visto che conosco una ragazza di buona volontà, adesso indipendentemente dal partito, una ragazza seria, me l'ha chiesto, gliel'ho dato il voto, no, non fa intendere. Magari si contraccambia, la sola gliela dai. Vabbè, l'unica, no, perché c'era gente, candidati, gente che non posso dirlo qua. Io sto iniziando la scheda nuova, perché è nuova di zecca, perché l'altra l'avevo finita e adesso vado e inizio la nuova. Eia, io il secondo timbro, amico, la scheda nuova elettorale. Vabbè, se mai andrò a votare. Ma chi c'è rimasto qua? Antonio c'è rimasto, Luca, chi altro c'è? Terzo timbro. Bravo, ci sentiamo dopo, ciao. E avanti. Già ci siamo qua. Se non è che Marco se ne va. Ho capito, riprendo da casa, e Luca, dai, questo passaggio l'ho capito, l'unico passaggio che ho capito. Dicevo, se c'era ancora Antonio Riserva, chi altro c'è? Ma Riserva è con Falcone. Ti ricordi la battuta quando diceva, Falcone, quello è il naso, mica è buone. Poi Minoretto vira via. A proposito, sai che il famoso sito con la registrazione di Falcone è sparito, forse per causa di inutilizzo, no, poca frequentazione, compariva sito archiviato, tutto sparito. Ma io già c'ho tutto quanto catalogato, fatto prima. È fatto bene già, almeno rimane un ricordo, poi spariti i siti, addio mi. Che l'ho detto, ascolto, vi faccio quattro risate. Come lo drago si canta a Luca Puccioni! diceva te telefono al numero di Luca Puggioni e diceva il numero. E chi è Luca Puggioni? Luca, quello che c'era poco fa. Ah, no, non sapevo nemmeno il cognome. E faceva i nomi di tutti, faceva il giro di numeri di telefono, perché quando vedevo una portante erano tutti, aveva il mio numero, quello di quelli delle latte dolce, di tutti quanti. Appunti, che non più giù, scusa, sto sbagliando io. Breco. Chi è? Buonasera. Ciao Gianni. Il tuo omonimo sono, buonasera. Sì, ciao Gianni. E proprio Giulio stava dicendo, non ho più sentito all'Umbrefetta. L'Umbrefetta è a parte della provincia, in prefettura. Che adesso è una donna, quindi è la prefetta. Umbrefetta, DJ. Chi è che c'è in rotta? Io e Marco Condor, che ha appena fatto colazione, quindi è bello carico. Ciao già, dopo un po' di giorni. Bene, un salutone a, vabbè, ben sentite, a te due. Non stai usando l'altra radio però, Marco? Certamente. Sì, il suono e la radio sono più che utili. Sì, forse te l'ho detto anche l'altra volta. Eia. Allora, sei andato a votare, caro? Bisognerebbe fare... defecare nel gabbiotto dove fanno votare. No, io mi sono astenuto. Io volevo fare quello che avevi fatto tu, stracciare la scheda elettorale in davanti. Ho detto, tenetevela, buon viaggio, pigliatevela, come diceva Paoletto, pigliatevela nel... Perché non si può strappare la scheda, perché uno non è libero di strappare la propria scheda elettorale. Puoi metterla senza voto per non strapparla, oppure annullarla con una croce, puoi fare l'umino che piscia sulla fiammella delle BSI destranazionale. No, intendo la propria scheda elettorale, quella dove ti mettono i timbri. Ah, ho capito. No, pensavo proprio quella dove votavo. Vabbè, certificato elettorale, dai, io la chiamo scheda, quello è, vabbè, certificato elettorale. vabbè, d'altronde io mi sono spiegato prima, no? Questa ragazza molto, vabbè, di buona volontà, seria, forse se lo merita più di altri, poi non cambierà nulla comunque, la mia vita non cambierà, se ci sia un regime di destra o di sinistra io rimango uguale, non cambia nulla. Questo di che partito è? Come? Che partito è? Sinistrorsa, sinistroide. Cara. No, io... Oh, ma lo sai che quando sono andato a votare c'erano due che si stavano attaccando. Uno ha detto, sicuramente lui è del PD. E quello lì gli ha detto, certo, sono del PD, certo, voto PD. Davanti alla... Stiamo facendo la fila per andare a votare. E ho detto, ma lo sapete che dopo la campagna elettorale non si può più fare pubblicità, non si può più parlare di politica, specialmente in questi posti. A voce, poi alla fine è uscita una e lui gli ha detto, cosa ha fatto il PD? Mi spieghi cosa ha fatto il PD? Più che rubare i soldi terremotati a fare queste cagate, li stanno tutti arrestando perché sono tutti delinquenti. E quello gli ha detto, e dove l'ha letto? Su Facebook questa roba. Poi alla fine è uscita una ragazza dal seggio, una di quelle, penso sia fosse la presidente, gli ha detto se dovevano chiacchierare di andarsene fuori. E questo qua per potenza gli ha detto, come? E ho detto, come? Adesso glielo faccio sapere, glielo faccio vedere io come. Se state a chiacchierare di nuovo, vi chiamo la finanza, vi chiamo le guardie di finanza e vengono loro a prelevarvi. Vabbè, in sede elettorale c'è gente che si può afferrare per ideologie diverse, perciò c'è sempre la polizia, una volta addirittura c'erano i militari. ogni tanto a presidiare i seggi elettorali, negli anni di piombo, per carità. È vero, una volta mi ricordo che a Sacropone c'era, Claudio, ci sei? C'era tutta la polizia, carabinieri, finanza, hanno scippato una donna al Sacropone, e questa donna, come l'hanno scippata, ha sbattuto la testa al muro ed è caduta in terra, e io praticamente sono salito correndo e ho avvisato i poliziotti che c'erano, detto che non si potevano muovere da lì, e allora ho fatto il soccorso con la donna e l'ho portato, l'ho chiamato l'ambulanza, l'ho fatto portare all'ospedale, che c'è tutta gribata vicino all'arcata sopraccigliare sinistra. Oi oi, se ne immagina andare lì in sede di voto con la maglietta di Forza Nuova oppure Casa Pound, ma quelli di sinistra ti disintegrano, ti divorano. C'è una mia collega che è andata a votare, gli hanno rubato la macchina, hanno fatto una rapina con la macchina su, se non passano un po' di casini, poveraggio. Eia, riprendi già. Eia, no vabbè, io non ho già spiegato, forse un'altra volta, le mie motivazioni. Vabbè, una delle ultime volte, vabbè, che sono andato, però sono andato con l'annullamento della scheda in triplice coppia. Praticamente la presidente del seggio non mi voleva accettare l'annullamento della scheda. Non voleva neanche verbalizzare le ragioni, per cui gli ho detto, adesso le sue motivazioni le spieghi i carabinieri. No, vabbè, ma volevo dire, cazzo, cioè, guarda gli articoli che ci sono scritti qua, cioè, lei si sta rifiutando di adempiere a quelli che sono i suoi doveri d'ufficio. No, subito, cazzo, ha timbrato le tre coppie, una a me, una l'ha tenuta a verbale, l'altra poi chiaramente ha messo nel registro grande, ha scritto tutte le motivazioni, e niente, me ne sono andato. Eia, sì, perché con uno ha le tasche piene, alla fine non ha senso, dai. No, perché vabbè, per veramente, cioè, se uno veramente non ha, cioè, nel senso, non ha nessun schieramento, non ha nessun partito che lo rappresenta, ha tutto il diritto di annullare la propria scheda, e quindi di conseguenza può fare questo tipo di procedura. Lo dicono le loro norme, quindi forse perché sono arrivato praticamente, era, adesso mi ricordo, era il lunedì, si votava la domenica, il lunedì sono le 3, forse perché sono arrivato alle 3:10, vabbè. Io sono arrivato alle 3:10, no alle 3:10, quindi sono arrivato ancora all'interno dell'orario utile, quindi non te che ti incassi, capito? Cioè, non volevano l'ora di sbaraccare, forse per quello che avevano fretta di chiudere. Ehi, può darsi. Può darsi. Vabbè. Potevo anche non votare, ma vabbè, una cosa che avevo promesso, eccetera. Questa roba comunale non la considero nemmeno, benché qualcuno dica che comunque è sempre meglio votare o da una parte o dall'altra, qualcuno, vabbè, nessuno aiuta nessuno adesso, non, in cozzi non ce n'è, lasciamo perdere. Beh, vabbè, Gianni, vai, doppio rum. Io lo vedo come un dovere, sono andato, ho votato, ho fatto il mio dovere e via. Ho dato sempre disponibilità per chi vuole cambiare, quindi poi si vedrà, se non si vede nessun cambiamento alla fine ti arrivi. Ah, notizia di poco fa, stavo leggendo, la signora Merkel praticamente cosa ha fatto? Già da un po' di mesi, però o si è saputo adesso oppure è arrivato adesso su quel canale lì. praticamente ha deciso di rimpatriare dei migranti, ovviamente migranti sempre entrati, come dire, irregolari, no? Siccome stavano piantando cagnara che non volevano rientrare in Italia, poi ti dirò il perché. Prima li hanno manettati, poi li hanno sedati, caricati sull'aereo e smerciati in Italia. Cioè, siccome lì non li vogliono, li riportano qua, capito? Quello perché? Perché secondo quegli accordi scritti, firmati da, non mi ricordo chi c'era all'epoca, loro devono riportare i clandestini, che ormai usano questo termine, nel primo punto di approdo. E siccome l'Italia è protesa bella nel Mediterraneo, ce li portano qua, capito? Però anche questi metodi di sedarli, no, per fargli questo rientro forzato, l'hanno definito, dice, metodi alla DDR, DDR, no, Germania dell'Est. Infatti lei è un ex DDR, mi pare. Gianni, mi sbaglio? Vabbè, sono metodi della, sono simili a quelli della Gestapo, ragazzi. Tanto valeva. Già, ti faccio la battutaccia, una battuta, tanto voleva allora sedarli, caricarli nell'aereo, fare tipo Argentina, andare al largo dell'oceano Atlantico e scaricarli in mare, ti ricordi? Sì, Argentina, Cile, i metodi che usavano, vabbè, lì altro regime, dice, l'opposto del blocco sovietico. È una battuta, naturalmente. Beh, cambiando l'ordine dei fattori, il prodotto non cambia. Esatto. Gianni è un genio, doppio run. Gianni dovrebbe eleggerlo Presidente del Consiglio della Repubblica, però non fa. Non te lo permettono, ti mettono in bastone tra le ruote. Frega Gianni della politica, non è una funzione. A Gianni? Guarda, io bene o male, io, diciamo che mi sono fatto una mia idea delle cose, quindi ho deciso di, a mio modo, di non dare più energia e consenso a certe cose, quindi evito, quando c'è la possibilità, insomma, in tutte le forme chiaramente possibili e immaginabili, chiaramente sempre alla luce del sole, sempre in maniera limpida e trasparente, io il mio consenso lo nego. Io te lo appoggio. Pomponio mi. Doppio rum, comunque Gianni già tipo che ha idee, eccetera, però poi ha visto che non. Che poi sa come la penso io. Diciamo, tutti hanno ragione, in piccola parte tutti hanno ragione, per qualche cosa do ragione al centro, alle destre, alle estreme destre, alle estreme sinistre, alle sinistre. Praticamente io sono dalla mia parte, non sono dalla parte di nessuno in realtà. Capito, doppio rum. Vai Pomponio. E poi se la trovo con il culo in tutti. Avrete a tutti i parti, più uno per uno. Ma tu con questo discorso stai facendo politica a tuo modo, perché tu ci sei in mezzo. Mi vota Antonio. Quel film di Totò col megafono, vota Antonio. In quei film ci sono un sacco di cose interessanti, quasi un bel ridì, però sotto ci sono un sacco di cose interessanti in quel film. Mi hai dato un'idea, mi sa che me lo cerco, me lo guardo, streaming, quello che è, zio Emule. Non so se vi ricordate un film dei, cos'era, dopo il 2000, era primi del 2000, è un film di Robin Williams, L'Uomo dell'Anno, dove praticamente lui era un comico televisivo che poi praticamente per una cosa o per l'altra alla fine si ritrova a essere praticamente in corsa per la Casa Bianca, non so se l'avete mai visto. No, io no, ma si trova cioè senza saperlo nemmeno si ritrova in corsa per la Casa Bianca. Sì, praticamente in America usano il voto elettronico, no? Adesso non per per fare sempre quello che vede i fantasmi dappertutto. Vabbè, lì per via di un sistema di voto digitale praticamente succede un mezzo brutto e praticamente lui si ritrova in corsa praticamente per la Casa Bianca. Buono a sapersi, dai, anche quello da guardare. No, mi stavo confondendo con un film con chi era Ace Ventura, quello che veniva spiato dalla nascita, The Truman Show. No, mi stavo confondendo con quello. Questo è L'Uomo dell'Anno di Robin Williams. Ci ho visto molto un'analogia con Beppe Grillo, chissà perché. Buono quello, lì. Avanti già. Sì, vabbè, ma bene o male tutti ci hanno fatto un'idea della politica, solo che quello che si desidera è un cambiamento. Che ci sia qualche novità, qualche cosa di... qualcuno che vuole evolvere un po'. L'unica cosa è quella, ma siccome quasi tutti, non tutti, però quasi tutti pensano solo alla pagnotta loro, bisogna dare spazio a chi vuole fare, secondo me, poi, non dico che partito sono, però io ho votato perché ho pensato che il partito che ho votato io stia facendo qualcosa e che abbia tanta voglia di fare. Gianni, di la verità, che sei di Casa Pound, c'hai anche la sede lì? Sei su Brooklyn, no, tutta un'altra ala. Casa Pound sono estremisti di destra, sono squadroni di fascisti. E io ho portato Casa Pound, a me lo cazzo va Antonio, ha capito, e picchia tutti i CB, ho preso Falcone e poi se ne va in discoteca la notte. No, naturalmente era una battuta già. Oh, poi se uno ritiene, cioè c'era un detto, no, se io sono contrario a una cosa, no, non mi batterò fino alla morte perché tu possa sostenere la tua decisione, come era già, tu sicuramente lo sai. Cioè se uno ritiene di dover votare anche un partito estremo, avrà i motivi suoi, non lo so. Non posso giudicare io. Ho capito, adesso non mi ricordo quella citazione. C'era un'altra citazione, adesso non mi ricordo se era di Ezra Pound o di Mark Twain, che diceva se votare avesse veramente contato qualcosa sicuramente non ce l'avrebbero fatto fare. Minchia, guarda che è una frase terribile, bellissima ma terribile. Ti ripeto, adesso non l'ho coniata io, adesso non mi ricordo se è di Ezra Pound o di Mark Twain. Comunque dice testuali parole, io non ho inventato niente. Quindi adesso magari prova a cercarla su internet o qualcosa del genere. Sì, capito già, ci danno il contentino, ci illudono di poter contribuire a scegliere chi... i nostri rappresentanti, poi in realtà non è così, è un contentino. Il problema è che... Comunque per noi non si può parlare in telecomunicazione di politica, cambio. No. Non dovrebbe essere così. Davvero? Però certo, sì. In effetti decidono loro su tutte le cose. Ma solo periodo elettorale? Ah, quando c'era... Certo, lo sì. Non lo sapevo, mi Claudio, non lo sapevo. Ma sempre per essere... cioè per non influire sui voti di chi ancora deve votare, così è. Non si può parlare di politica, di cose, di Stato in telecomunicazioni. Questo dice lo statuto. Mi ricordo, addirittura mi ricordo Claudio, che l'ho letto da qualche parte, che i radioamatori tipo anni 60, ma forse anche 70, buonimi, potevano parlare solo di cose inerenti alla radio, non potevano parlare di politica, non potevano parlare di tutto, di cavoli propri, come si parla al baracchino. Bisognava parlare solo di radio, perché il centro di radio ascolto, se ti castagnava a parlare di roba al di fuori della radio antistica, ti facevano casini, vero è? È verissimo, noi radioamatori siamo pubblici ufficiali in telecomunicazione, abbiamo un segreto di Stato, non possiamo interferire in cose né dello Stato, né politiche, né di niente. dobbiamo parlare di cose inerenti, argomenti inerenti al settore amatoriale. E questo vale anche per la 27, lo fa tutto uguale per tutti, non si può parlare di politica in 27, in radio non si può parlare di politica. Ok, buonasera a tutti, se mi sentite se no cambio radio. No, già ci sentiamo, eh. Sotto c'è anche un altro corso ad Alghero, a voi fatica, non verrà. Poi che avete portato da Alghero, verso 9.10, grande lupo. O ti giro la direttiva, ti faccio saltare con la radio che c'hai. Ehi, a te sto dicendo, che mi copri a Sassari, che c'è uno un pochettino più basso, Marco no, Gianni già lo disturbi, all'altro Gianni me lo copri totalmente, adesso no, ma se agganci sì, vabbè, se agganci sì, più alto di lui, lo disturbi tantissimo. E stai parlando con il numero uno di Alghero, basta dirlo a Valerio per fermare il numero. E appunto, già ho sentito che sta qua, lui parla solo con gli algheresi, con i sassaresi ormai non ci parla più. Ma Valerio è in ruota, Alghero? È in ruota, sta parlando con Roberto, sotto di voi. Oh, qua si arriva la forza. No, qua solo Roberto arriva. E poi Valerio per parlare ad Alghero lo mette in a un vatto e mezzo, capito? Per non farci sentire. Ma a me non mi scappi, però puoi usare anche il portatile. Ciao Valerio, buonasera. Dai, e continuate Roberto, che qua sa se c'è un altro questo. Capito Marco? È una cosa... non mi sembra neanche, però lo statuto quello dice, bisogna stare attenti quando si parla di politica, di chi si parla e come si parla, perché basta che qualcuno non sia molto corretto, ti registra, ti manda a Roma e ti ne ritira in tutto, capito? Non a Sassari, a Roma direttamente al Ministero delle Telecomunicazioni, perlomeno, per noi è così, poi per i CB bisogna sempre stare attenti comunque in ogni caso. Avanti, dottor Ruth, dillo a Marcia. Allora, va bene, riprendi il tuo numero, vai. A me che aiuto Gianni. Gianni. Ciao Claudio, buonasera. Boh, magari gli ascolti il telefono. O si è appisolato. Fra un po' mia, la Biocco sta venendo a me. Anche l'altro giorno è caduto, l'ho rilanciato, è caduto, boh, non lo so. Va bene. Ciao Roberto, buonasera, ben ascoltato. Mi senti? Sì. Capa Rogero. Tu sei, ti devo entrare al microfono in mezzo. C'è un leggero saturazione, invece quando ho votato quando te lontani, mi si spiano chiaro con quell'apparecchio. Non sono abituato ai microfoni normali, no? Io uso un microfono di tavola e quindi tenere questo microfono in mano non è che mi piaccia molto, non mi piace tenere niente in mano, comunque se un microfono va anche bene, però ci vuole una certa distanza e io non sono abituato. Gianni doppio room, dove sei andato a finire? Adesso sei perfetto anche qua doppio a tu gaggiuto torre, vabbè riprendi il profè. Eia sì, sotto, vabbè, io sento un bisbigliare, ma non mi stavano creando fastidio, poi sicuramente da voi sarà diverso. Da me è diverso, da me, se Alghero mi arriva 9.10, tu sei 9.15, fate il conto, se Roberto aggancia ti supera anche, e quindi è un casino, però se rimangono così non danno fastidio, vai. Quanto sono io, liscio? 12 lisci, modulati 30 credo. Manca sul digitale, manca una striscetta rossa 9+30. Sì, dai. E tu adesso la stai usando Antonio? Allora, 87. Ti ascolto benissimo, non c'è problema. Chiamate Gianni, che se io avessi addormentato. Gianni! Passa via tu! Chi è con l'ecco? Che vuoi sia con l'ecco? È il sindaco di Alghero, beh, Valerione! Allora, buonasera, La mazza di Nirvana, 9.15, stai arrivando. Marco, attenzione Marco! Ciao Valerio, adesso sì che ti ascolto, prima arrivava solo Roberto, adesso sei Santiago Otto. Adesso le cose sono cambiate, beh. Dobbiamo coprire tutti quanti. Aspetta, la modulazione è anche fortissima, c'è stato un brecco anche, dai, fatelo venire avanti. Avanti il brecco. Buonasera, provincia di Bari. capito, provincia di Bari, stazione? Croma 2. Croma 2, vedi qua Roma c'è. Vabbè, ciao Croma 2, buonasera. Da Sassari, Claudio Spagliero. Ok, ti rilancio avanti gli amici di Sassari, vai tu Marco, poi cercate Gianni che è sparito. Sì, magari è andato in bagno, eccetera, dai, può darsi. Bene, sono contento che arrivi anche Alghero, dai. Ancora, che arrivi ancora Alghero, dai. Nulla, forse sono spostati. E tu, caro Antonello, come va? Sto bene? Tu, così, così. Non è proprio, no. Così, così, sì. C'è Simona che non sta bene, quindi... Ma se ne vuoi che rispira la destra, ma vai a curtare tutti. Vai, lo profe. Ma c'era un amico di provincia di Bari, è sparito. Boh. Avanti, Croma 2, avanti. KK, qua io ti ascolto in mezzo al QRM, un po' bassino, forse per via della mia posizione. Claudio sicuramente ti ascolta meglio. Comunque salutoni da questa parte, Gianni, sempre da Sassari. Vediamo se ti ascolta anche Marco. Avanti Marco. Buonasera, alla stazione Croma 2, qui un Santiago di 6-7 oscillante. Marco da Sassari, vieni avanti Croma 2. Cosa dire? Ora, ora, ora, e beh? Riprendi, riprendi. Gianni è sparito. Ok, Croma 2, vabbè, io ti ripeto, ti dicevo un po' basso, quindi ho difficoltà un po' USB, il segnale che sale e che scende. Qua mi arrivi ogni tanto da 2 a 5, molto, molto variabile comunque, dai. Sparito. Sparito, sì, adesso è proprio sparito del tutto. Anche gli altri che sentivo prima, o si sono sostati, o sta calando un po' la propagazione. E poi certe volte io non so una cosa a dire di ex, devo essere un po' predisposto a me. Giornate un po' cariche, certo che non ne ho tanta voglia, no? Non so una cosa a dirgli. Ecco, falli con mulo. Come diceva Falcone, falli con mulo. Mi sono dimenticato di salutare Antonello. Ciao Antonello, buonasera. Ilia, ciao, buonasera anche a te, ben ascoltato. Marco, non ti dico come devo fare dopo, perché sennò cazzo, neanche ci stanno, te lo dico io. Cosa sarà mai? Tutto di merda. Buono, buono, un po' di sale, un po' di pepe. Grazie a me. Tutto questo. Il problema è che adesso non me lo fa a pranzo o me lo fa a cena. Ma se prima mi c'era, quindi. Io ho detto, ma come lo mangio? Ieri mi ha disturbato, tanto bello stamattina, ma stasera puntato ci c'era io la pizza. Boh Antone, ne ho capito la metà della metà, sei rimbombante, sei tutto... ho capito che eri a Cussi, boh. No, non sono io a Cussi, mio fratello, che deve andare a raccogliere l'acqua. Ah, ho capito. No, ti pare che mi faccio impressionare da un po' di pupù, mentre è quello passato. Insomma io sono abituato, figuratemi. E Claudio, perché ci sia passato prima di me, figurati tu, via. Non è niente ancora, no? Bisogna farci l'abitudine. Appena mangiato che ti chiama, mi sto cagando. Vai, cazzo, e incominci, cazzo, a pulire, cosa del genere. Meno male non vomiti nulla, perché se c'era l'abitudine, ma se fosse stato ai primi tempi, mamma mia. Ne ho fatto di anni in mezzo alla cacca io. E appunto Clau, ne sapevo qualcosa noi due. Cazzo. cominciano come fratello, più che altro, capito? Ce l'ha chiamata adesso, devo andare a lavarlo, perché si è fatto la cazza, eccetera, eccetera. Oh, sai, io se me l'ha fatto più allora, se l'ha fatta apposta di mangiare. Non c'è verso, prima no, dopo no, ma allora di mangiare me ce l'ha fatta. Vabbè, purtroppo è così, dai, non fa niente. Avanti Gianni Profetta. Mamma mia. Olbia, Olbia. E cosa volete che vi dica? Ma stasera c'è la gara 2 al palazzetto della Dinamo, no? Gioca a Sassari, vero? A 4, quanto so io, non a 2. A 4 è già, ho già 2. Alle 8 e mezza inizia. Ho detto gara 2 qua al palazzetto, poi lo so che ne ha giocato altre due prima, quindi era gara 1 al palazzetto, stasera è... la chiamo gara 2 qua di nuovo, dai. Sì, vabbè, li siamo capiti, sì, sì. Bene, dai, vediamo cosa combina. Vabbè, è fregato il fratello di Sandra, Giancarlo, perché non lo vota nessuno. Mi fa ripiangerà, te l'ho fatto l'affare a candidarmi. Oh, per carità, santini di ogni genere, poi gente che... si è candidata gente che bivacca. Siamo capiti? Fa vicino, c'è un gran bivacco. Tutti i candidati, non tutti, no, ma... Sì, vabbè, ma non è quello il problema, non c'entra niente, adesso le votazioni di oggi sono differenti da quelle fatte sulla circoscrizione, hai capito? Per fare carriera così, con i soldi prima ti candidi alla circoscrizione, se ti votano, che ti votano di lì, e già incominci a fare carriera un pochettino, eccetera, eccetera, e cominci piano piano, finché non arrivi ai livelli degli altri, capito? Nessuno è nato imparato, la cosa è quella. Quindi devi studiare un pochettino di italiano, fare, come si dice, saper parlare alle persone, non è che puoi parlare dire, a 10 amici, no. Devi saper prendere per il culo le persone, tutto lì. Il discorso è quello, come l'ha fatto Renzi, come l'ha fatto Berlusconi, come l'ha fatto Di Maio e tanta altra gente, capito? Tutto lì, se vuoi avere voti devi pigliare barugolo italiano, devi sapere parlare sempre sovvivente, eccetera, eccetera. Però pigliare un po' di culo, il discorso è quello. Non puoi parlare di politica, almeno fino alla mezzanotte. Oh raga, io stacco, dai. Stacco, dai, ci sentiamo. Ci aggiorniamo nei prossimi, dai. Salutoni a tutta la ruota, Claudio, Antonello, Marco. E gli altri ascoltoni. Ok, dai, ci aggiorniamo alla prossima. Ciao ciao ragazzi, buona serata. Ciao Gianni, ciao, ben sentito. Ciao Gianni, ci sentiamo. Ciao Robroffè, ci sentiamo alle prossimine. Cosa ti è successo Gianni? La luce? Non è arrivata gente e poi la verità, ho fatto un salto su 45, c'era anche Massimiliano, ma non è buona la propagazione e poi sono ritornato qua. Gappa, e anch'io ogni tanto accendo, ma è un casino entrare e parlano tutti assieme, un bordello nero c'è. Ci vuole calma e tranquillità, no, pensavo ti era mancata la luce, ho detto rilanciato, non hai ripreso. È arrivato un amico e poi è ancora qua, dai. Mi stavo facendo vedere un po' come funzionava la storia, l'ha voluto vedere, quindi sono passato un attimo sul 45 a fare chiamata, ma c'è un bordello, un merame nero. Sì, è un casino, c'è. Io mi c'ero voglio a caffè acceso e ho spento. Va bene, allora il microfono per Marco Kundo, vai, riprendi Kundo. Kundo, o Condom anche. Ehi, ciao Gianni, dai, buona serata, sentiamo. Ehi, anch'io sto perdendo quota, mi sa che vado in bagno, mi preparo, mi guardo già c'è in TV stasera. Qualcosa interessante, non lo so, boh. Ok. tanto sport non seguo, non mai seguiti. Bene Marco, dai, ti saluto, buona serata. Chi è rimasto qua, oltre Claudio? Qualcuno qua, male di Antonello Alessio, non lo so. Gianni Rubroffetto è andato a mangiare e Antonello Alessio ha detto che doveva andare a pulire e cedere al fratello. E no, adesso, cazzo che lavoro. Prima, se permetti, mi depuro. Ridi, ridi, e ci si passa per te su. Gianni, te ce l'hai a Torello, eh? È preoccupato perché deve andare a gestire il fratello. È bravo Antonello, prima la madre e poi il fratello, insomma, anche lui le sue tribolazioni ce le ha. Prima mamma, poi babbo, anzi no, prima babbo, poi mamma, per esattezza, in successione con mio fratello, quindi figurati tu. Ormai sono già abituato. Antonello, quando capita a te vengo io, bene va. E quando sono a vento però mi tra. Sì, la massa che te ne varia. Allora vengo con la matta da baseball. Allora sei a babbo. Aspetta, racconto la storia. È vera me. Quando siamo andati lì alla... Aspetta, dove la cazzo era? Ah, in urologia. Era andato. Ero trovato un coso in barella, no? Cioè, è entrato dentro. È entrato all'interno. E ha fatto cazzo, si ho visto. Quando ho visto la dottoressa che era bella tutta con le tette fuori, no? Si ho visto. Ho 84 anni di funzionare ancora dietro e provi a mettermi il culo di Maria Gara, Cesso Maria Gara, Gianni, fai qualcosa. E speriamo che abbia preso dal padre Alessio, se no è tribolo la storia. Tranquillo, tranquillo. Già sono Maria con anch'io ancora. A questa età non ti preoccupare. Io sto parlando di cose serie però, Antonio. Ho detto a Gianni, perché anche Gianni, a parte l'esperienza che ha fatto con il volontariato, ma tutti abbiamo altre esperienze. Anch'io ho avuto sia mio suocero che mia suocera a casa. Per mio suocero ci pensavo io naturalmente, per mia suocera ci pensava mia moglie. Poi alla fine è stato deciso in famiglia di portarli tutti e due alla casa di riposo del figlio e lì sono morti praticamente per anzianità, come tutti. Però l'esperienza ce l'abbiamo fatta tutti, caro Antonello. E Gianni sicuramente molto più di me. Papà l'ho tenuto 14 anni a casa. Ma te lo conto. Da quando è che hai iniziato a non essere più indipendente? Mio padre era indipendente fino all'ultimo, poi ha avuto praticamente problemi alla prostata, l'hanno ricoverato e da lì ha cominciato a formarsi le piaghe, questo, quell'altro, e poi ci hanno detto che aveva anche un tumore alla prostata, che però quello lì non gli avrebbe fatto nulla perché sono lenti questi tumori quando sei così grande a crescere, quindi non gli avrebbe causato nessun danno, poteva campare anche altri 10 anni. Però io, quello lì della che c'ho io, che l'abbiamo a gabbadueli, perché il dottore mi ha detto, abbiamo provato anche a staccare l'ossigeno, ma c'ha una fibra suo padre, cazzo, mi ha già baidato, le rubati, già diventi invece burudù. E infatti, quanti anni aveva già, così per sapere? 96. 96? Opa. Cazzo, 96, che Dio lo mantenga. No, mia suocera 10 in meno, 86, mio suocero 88, però 90 non ci sono arrivati. Vabbè, purtroppo è così, no, a me dispiace quando li vedo soffrire, mia suocera ha preso la broncopolmonite e l'ha messa un bel male, se non avesse preso la broncopolmonite sarebbe stata ancora tranquilla e serena, perché malattie non ne avrebbe, grazie a Dio, quindi. Però purtroppo è così, vabbè, pazienza. Chi c'è sul 45, Massimiliano? Poco fa è passato, non so se se ne sia andato via, stava facendo un paio di chiamate. Via, vabbè. No, io sono con questa. Sami, poco fa stavo andando con l'FT950, microfono normale, giusto per far girare anche quella un po' in tutte le bande. Adesso sono passato col 440, le 430 era sempre acceso, ma di sulla Dudutti c'è solo questo acceso, c'è il biglielucci. Va bene. Ti dau, riprendi. Sì, sono qua, non c'è problema. Purtroppo sono così. Ma che babbo è la stessa cosa, eh? Lo ricordi che ogni cristiano che era mio padre? Te l'hai conosciuto, non è che non l'hai conosciuto. È morto di blocco polmonite in tempo di... già lo sai, in quel tratto di ospedale rosso, a Rosa, lo chiamavano. Senti, rovesci. E infatti è vero. C'era una specie di maledizione, dici. Entrava in medicina 2, medicina 1, non riusciva a vivere. Sì, vabbè, io non è che sono molto esperto, ma Gianni già tipo risponde. Blocco polmonite è una cosa bruttissima, no già? Si forma il liquido nei polmoni, poi scendandani. Se non riescono a farvi asciugare il liquido che c'hanno nei polmoni, se ne va. Specialmente quando sono anziani, è così. La settimana prima, sai cosa mi ha detto? Cioè io portami via, mi ha detto, che andiamo a casa, volevo uscire in moto, cazzo, volevo uscire. Dice qua non ci voglio stare, mi ha detto, e ma tu sei tutto pazzo, gli ho detto. E con l'ultimo, c'ha le gambe che non si muovono, gli ho detto vuoi andare. Dice, ehi, sto bene, me ne voglio andare, non so niente. Dopo 3-4 giorni, la mattina era tranquillo, la sera mi morto. Molto stecchito, proprio dalla blocco polmonite, perché gli aprivano le finestre, capito? Non ne faceva niente né nessuno e quindi a un certo punto ha avuto la ricaduta. Allora io vi lascio che devo andare a portare giù il cane, dai, ci sentiamo. Una buona serata, grazie per il QSO, c'è troppo caldo in casa, non vi la portate. Dai, buona serata a tutti. Ciao Gianni. Ciao Gianni, buona passeggiata e buon toro. Sì, si sta molto bene fuori, c'è un bel freschetto. Ciao. Davvero? Ma che canale è questo qua? Nostro. Come canale nostro? Il 10 alto. Ce l'abbiamo comprato noi. Ciao Luca, io sto andando, c'è troppo caldo in casa, non vi riesce a stare. Devo uscire per forza, a non sbidere, ci sentiamo ragazzi, buona continuazione. Ciao, salutami il tuo amico, buona passeggiata. Cosa hai detto Luca? Siamo nel canale normale, canale 10. Ma sicuri siamo. Beh, sicuri siamo. Vabbè, da te, su Google 440, vedete, cosa da nel bocio, o frequentimetro all'inverso, o riganale all'inverso da nel bocio, che c'è il radio. Tu, di tutti i rigorosi, ne intendi, cazzo? 27075, canale 10. Vabbè, ci sono col 440, ma qualsiasi radio, siamo sul 10. Appunto, a meno che non si abbia bevuto un po' di vino e bere doppio, che bere 25-35, come ne so io. Ma scusa un attimino, ma è banda C o banda D? Ma c'è un gioco io, banda C e banda D, è canale 10, siamo normale. Tu devi sapere, la radio è a doia, non lo so, non me lo ricordo. Se forse A, B, C, D dovrebbe essere in alto, non lo so, non me lo ricordo. Questo è il canale 10 normale. Allora, in teoria dovrebbe essere 27075, banda C, ma io sono in banda D. Anch'io. Perché tu sei in banda D? Sì, dipende dall'apparato, è diverso in base agli apparati. Ciao. È giusta, ciao Claudio, abbiamo Sarri come allenatore, l'hai saputo? Sì, Avasse Musaridi, davvero. Ciao Giulia, buonasera anche a te. Sì, oh Luca, se ne dici, poi accetta la banda. Come ti hanno detto loro, può darsi che sia diversa. Quello che avevo io era nella C, i canali normali. Quello ad esempio c'è Daniele, quello lì magari è diverso, ma sì, nel canale 10, tranquillo. Nei baracchini nuovi, quelli a 400 canali, risulta banda D. Prima erano C, adesso risultano banda D, Luca. Tranquillo. Ok, claro, io ho fatto delle regolazioni con Massimiliano. Non so, secondo te come così, giusto? per... siamo tutti al minimo qua, eh. Lu, lo sai che io parlo in faccia, sono schietto con le radio, perché da quando io ho usato il baracchino, a me il del segnale non mi interessa, però la radio a me mi piace. La tua radio rispetto a quella di Massimiliano e quella di Daniele non mi piace, c'ha troppe tonalità alte, non hai bassi. Non ho bassi perché ho cambiato il microfono qua, ma se rimetto quello che c'era prima, aspetta. Te l'ho detto l'altro giorno. No, con gli acuti quelle radio non vanno bene. Io ho il 48 mio, Viraggio Desanni, e c'ha sempre lo stesso microfono, c'ha i bassi, e va bene così. Quando si usano quelle radio modificate devi avere bassi. Gli acuti non servono a niente, perché c'è già l'eco che fa girare la radio, capito? Questo è il mio parere, poi non lo so. Guarda, questo qua è quello, la batteria da 1,5, ora un po'. E non lo devi toccare, lascia questo e boh, questa è una radio, l'altra non mi piace. Ma questa è una radio. Vabbè, e là, vabbè, l'altro che è un microfono dinamico, E ma non mi piace, no, a me non piace, poi se piace agli altri, tu hai chiesto il parere a me, io ti dico il mio parere. Questa mi piace di più perché c'ha più bassi. Confermi Giulio, là, io volevo parlare anche tu, se volevo passare a bala, così sta a zero, non c'è più niente, non collego. Questo è migliore dell'altro, l'altro non ha niente, non è un microfono che non va bene. Questo va discretamente. Ah, questo va discretamente, va buona. Io ho detto che andava meglio l'altro, ma non so, vabbè, comunque. Interessante che mi ascoltate, là hanno capito, io ho fatto parlare a Marina da casa, da giù, no? Verso casa, la sentivo bene, boh, strano che da qui arrivi male quel baracchino, ma è strano. Guarda, quel baracchino da casa tua sembra fuori frequenza lui, non so se l'hanno notato anche gli altri, però io perlomeno col K, col 430, col 440 faccio fatica ad ascoltare. Se invece attacco l'Alan 48 ti sento molto meglio. Non so se è un problema perché è troppo larga di banda, Giulio, boh, non lo so. Ma questo bisogna vedere come è stato regolato. Comunque quell'altro è un microfono assolutamente da scattare a confronto con questo. Questo è stato molto migliore, Luca, dai. Tieniti questo e ciccia. Poi la frequenza non so, io sinceramente non lo sento più, non l'ho più sentito da tempo, col baracchino che usciva quando era a casa sua. Quella era la radio, tutte queste altre che mi hai fatto sentire da qualche mesetto a questa parte non sono le radio di Luca, per me io la penso così. E vabbè, la facevo sempre, non è che c'è sempre conservata, mica l'ho venduta. No, cosa vuoi dire? Non so cosa dirti, non è la tua radio, ecco, non è la tua radio, prima era bella quella con quel baracchino che avevi, quel microfono eccezionale, questa non è, c'è del gracchiante sotto, insomma, è una radio un po' così sporca, ecco, diciamo, sì, si capisce quello che vuoi, no, quello non si può dire che non si capisce, però c'è del gracchiante sopra e c'è della sporcizia. Aspetta, è che lui parla troppo veloce, parla un pochettino più lento con quell'eco. Luca, vedrai che esci meglio. Io parlo lento, non parlo veloce. Tutto finito, ma non mi piace, Sarrazzo. Non mi piace, neanche con l'eco, ma che te l'ha regolata, Massimiliano? Allora. No, vabbè. Preferisco solo nel canale 45, quando sei qui se ho buone a Radio 2, che è uno spettacolo, lì sono mebbiato, la verità lui, non lo so, ha ragione Giulio, è sporca come modulazione, non è bella come deve essere, cioè ti sta ascoltando col K senza l'NB, questo Daniele è una schioppettata quando esce con quella radio, chissà, non lo so, non sono convinto. E cosa vuoi che ti dica, boh? Vuol dire che è diversa, non lo so, ossia. Ma non è diversa la radio, perché quella radio l'ho usata io personalmente, l'ho usata Massimiliano e tu la vedrai come gira. Evidentemente sei tu, la tua voce, non lo so. Non stai uscendo bene come devi, come deve essere una radio di quelle, capito? Non lo so, non mi piace, Lu, dico la verità, non mi piace quella modulazione. Io vedo uscire appena infatti, Luca. Sono quasi a zero, infatti, no, sono a zero, guarda un po'. Bebo, noi altri. Ma adesso, allora gli ho tappato appena di eco, ora un po', prova, prova, ora prova, prova. Sono io con la palla d'eco? No, adesso è a mezzogiorno, attenzione con Purio, cambio. Ah, non vedi che stai migliorando. Ma infatti sono a zero però, non so quanto voi, non so quanti fate salando. Se sei 9.25 non puoi essere a zero, stai tranquillo. Qua se 9.25 è chiaro chiaro, il segnale. Beh, la manopola è a zero di fatto, poco a poco gliel'ho aumentata adesso, guarda un po'. Prova. Vedi che sei tu, Luca, che tocchi, non devi toccano, adesso sta già migliorando. E cosa tocco? Non ho toccato niente, io, cioè, ci sono dei puntini bianchi, che rimangono fermi lì, io non tocco niente, io gli ho fatto una prova e gliel'ho abbassato, ma ci sono dei puntini bianchi, un punto di riferimento, capito? Sì, quel puntino di riferimento era sempre così, anche quando era qua la radio, quindi già la conosco bene quella radio, non ti preoccupare. Però io da quel puntino mi regolavo diversamente, non è che il buono di latte, il puntino ci andava come mettere il buono di latte, no? Così già ha migliorato tantissimo, quindi vedi bene che ci sono ancora delle regolazioni da fare. Non ti mettere nei puntini che hanno messo gli altri, Giulio. Infatti, no, io so solo una cosa, oh Luca, tu prima avevi una modulazione che era una fra le più belle che c'erano in assoluto, questa invece no, questa come la posso classificare? Al centro di tutte le radio, al centro di tutte le modulazioni, sicché praticamente, tanto per fare un esempio, su una classifica da 1 a 10, prima eri 9 magari, no? E adesso sei diventato 4, 5, non di più. Perché? Perché io la sento gracchiante, è sporca, la modulazione è soffocata, voi te la vuoi chiamare? Boh, non so come spiegarlo, però non è la tua modulazione, prima avevi una bella voce corposa, rimbombante, a meraviglia, tutto nella giusta quantità, non un rimbombante quando poi non si capisce niente, no, era proprio perfetta, te lo sto dicendo, era una delle radio più belle che io avessi mai sentito, ma non da adesso, da anni e anni e anni. Oggi come oggi questa radio per me non è bella, poi vedi tu. Sì, no, non è che mi offendo, ci mancherebbe. Assolutamente, io accetto i pareri, poi non so. Che avanti questo bip. Beh Giulio, questa è un'altra radio, non è quella che usa sempre. Questa è uguale, però è modificata. Capito, ne ha due. Però, ti ripeto, se la usa così per fare questo qua va bene, poi nel 45 puoi anche aprire e sollevare tutto quello che vuoi. Ma così a livello locale devi tenerla così, se no gracchia. Ma io devo essere sincero, a me le radio modificate non mi convincono. Sì, tutto quello che vuoi, aumenta la potenza, vai tutto quello che vai di biade. A chi piace, a me sinceramente non mi è mai piaciuta e suppongo che non cambierò mai idea. Per cui, vabbè, comunque se capite si capisce, Luca, non è un problema quello, non è che pretendiamo il massimo, per carità, assolutamente no. Poi se mi stai dicendo che questo è un altro baracchino, e allora sarà quello il motivo per cui c'è differenza da uno all'altro. Io comunque rimpiango quella che sentivo prima, la verità. Vabbè, comunque va bene lo stesso, dai, già ti capisco ugualmente, a me oggi, ma quando vedi stasera presto, ma cos'è che hai come antenna, quando eri lì in zona, altra zona, insomma, uscivi malissimo, anzi non arrivavi proprio da me, non capisco come mai. Guarda, questa qua è la mia, 1, 2, 3, prova, vai. E dalla via Ruzzi, tu presente ce l'hai, il giorno, dal giorno alla notte, la stessa cosa. Ma biscio, eh. Vabbè, perché siete abituati a sentirmi sempre con questo. Ma io quella l'ho presa così, per fare qualche collegamento. E niente, mi ho preso anche la batteria nuova, la 9, sai, la cambio, ma sto uscendo bene, sì? Sta uscendo benissimo, tu dici, senti, ma a me mi parlo più forte, chi ci ha preso un po', almeno le radio, questa è più forte di quell'altra. Sì, sì, vabbè, non lo metto in dubbio, questa c'ha sempre quel microfono, maybe più 4, il Typhoon, non c'è alla fine, non è mai... Oddio, ho toccato di watt, ma poco poco e basta. Del resto tutto come... come, cioè perlomeno io non lo tocco, cioè solo cose di vado toccate e basta. Poi se qualcuno che ce l'aveva prima ha toccato altro non te lo so dire. Ma quale, questa? Dai, ma questa c'è una bici, lui c'hai anche 5 punti S in più, quasi 6 punti S in più, capito? Per non dire un dB, perché un dB è 6 punti S, quindi ti posso dire un dB in più. Ma c'è una bici, ha ragione Giulio, ma te lo confermo, te lo sottolineo, no, proprio completamente diversa come radio, capito? Completamente diversa, ma tra gubba, no? Quella là andrà bene per quanto riguarda l'eco regolata come deve essere, ma questa è una radio, te l'ho sempre detto, è la migliore in assoluta che c'è a Sassari con i baracchini. Tanto per essere chiari, io vorrei fare un piccolo ragionamento, no, non per te, ma addirittura perché tutti quelli che stanno ascoltando. Noi ci dobbiamo mettere in testa solo una cosa, che quando devi fare i collegamenti, se non c'è propagazione, puoi avere anche 1000 watt, non c'è niente da fare. Con un watt riesci a fare il collegamento, basta che ci sia la propagazione buona. Per cui non riesco a capire questa mania di andare a buttare soldi, premesso che uno i soldi suoi li spende come crede, per carità, questo è un altro discorso a parte, il fatto di voler addormentare per forza il sistema del baracchino. Se non è propagazione, tu ne puoi dare quanto ti pare ti piace, sia di radio che di watt. Se non è propagazione, non è nulla va. Dunque, ripeto ancora una volta, il baracchino normale, basta una buona antenna per fare tutti i collegamenti di questo mondo. Basta, ripeto, che ci sia sempre la propagazione buona e giusta. Non è il baracchino che riesce a fare il collegamento, no? Perché magari ti dà 2 watt, 3 watt, 5, 10 watt in più. Non è quello, assolutamente. È la propagazione che comanda. Io spero che questo sia un ragionamento che la gente riesca a capire. Cosa vuoi che ti dica, Luca? Io l'ho preso così. Poi Claudio mi confermerà se anche lui è d'accordo o meno. Che ne so. Sottolineo il puntello. Sì, vabbè, dai, no. Giulio, il discorso è che, vabbè, a me la giù comparata, non è che, è in chibi, usa i vostri, se la rampo. Questo è un altro discorso, non c'entra niente questo, Luca, questo è un altro discorso. Però se ci fosse qualcuno convinto che facendo la modifica al baracchino riesce a fare il collegamento a differenza di un baracchino normalissimo, e sta sbagliando in pieno, anche se non è propagazione, no, per nulla la va, ecco la situazione. Per cui, ripeto ancora una volta, ognuno fa le modifiche e spende i soldi che le pare le piace, intanto lo vedo e ne fa quello che vuole. Però è una cosa sbagliata, sbagliatissima, primo perché rovini il baracchino dall'originalità, primo. Secondo perché il più delle volte, almeno l'85-90% delle volte, anziché migliorando, si peggiora, nonostante che senti magari l'elicottero, quindi vieni sotto tutti anche bucarine, non vuoi capire, oh Luca, non è che ti sto sgridando, sia ben chiaro, sto mettendo in chiaro la situazione, la gente questo non sarà ancora applicato bene nella mente, per me sono soldi buttati. Anni fa, 8 anni fa, quanto ho pagato la LAN 48 che ho io, eh? 400 euro. Non, se torno indietro mi tiro la testa a terra, però ce l'ho, oramai me lo tengo. 500 l'hai pagato, 400. Ai, caro, caro. 500, 450, hai ragione. Quindi ve lo ricordo. Hai capito, Claudio? Allora, quegli apparecchi in macchina vanno bene, in macchina, in camion, quello che è. Però messi in casa è meglio che non te lo piazzi, perché sarebbe da arresto, hai capito? Anche perché hanno una larghezza di banda allucinante che disturberebbe non solo la 27, anche per dire la TV, ma interesserebbe anche magari se sei vicino a un aeroporto militare, prendo e te lo metto dietro, il discorso è quello, come se facciamo una volta. Quindi cioè, gli apparecchi modificati così non vanno bene, finché uno è in camion va bene, non succede nulla, ma quando sei in casa quegli apparecchi è meglio non usare mai. Al limite ti metti un DM1000, quello che è, se vuoi l'eco, se vuoi una camera eco, ti metti una camera eco digitale, ci sono, ti metti un mixer, ci sono parecchie cose se vuoi usare l'eco, tanti effetti, eccetera, eccetera, però non è a quei livelli che ti c'è pratica che allarga la banda, è come se io prendo per dire l'uscita del microfono, gli aggancio l'ingresso stereo della radio, prendo e mi metto a mettere musica, se non c'è scoccato, da canale 10 mi faccio 4 canali a destra e 4 canali a sinistra, a parte tutte le armoniche che ci sono in giro, quindi il discorso è quello, in M è purtroppo così, in FM è una cosa diversa. Il problema è solamente quello, solo che sono tutti quanti fissati, eccetera, eccetera, c'è la moda, eccetera, e tutti fanno così. Spendono 500 euro per che cosa? Con 500 euro messo, cioè ci usciva, adesso non c'è più, ci usciva il Kenwood e ti rimaneva anche il resto per andare al bar, al ristorante, a parte la tanto anche la cena. Sono altri discorsi, io ce l'ho e se devo andare a farmi due chiacchiere a fare nel canale 45 vado con quello, se devo modulare qua modulo con questo, appunto non è che però sono dei baracchini che perlomeno il mio disturba tantissimo, lo sai, disturba tantissimo e c'ha una larghezza di banda allucinante perché sono modificati, perché sono aperti, perché hanno tante cose, capito? E quindi è così, però hai detto bene, c'è la moda di questo ecco e chi ce l'ha se lo tiene, io lo uso pochissime volte e solo nel canale 45 quando veramente voglio mettere appresso agli altri, se no non me ne affutti nulla a me. Sai quanti anni è rimasto dentro l'armadio? E l'ho nuovamente staccato ed è dentro l'armadio, e dentro l'armadio rimane, non me ne affutti nulla, se poi qualche giorno lo voglio togliere per farlo girare, lo tolgo e lo faccio girare, ma non è mi bongo a favidare no, se favide no che con quello lì mi sono al campanello come hanno già fatto una volta. Vai Giulio. Certo, ma io mi riallaccio a quello che poc'anzi hai detto tu Claudio, ascoltatemi bene, Claudio tu sicuramente ne hai già parlato e dunque questa cosa non è che lo sto dicendo principalmente per sentirlo tu, no, perché tu ne hai già parlato per cui significa che lo sai. Allora poc'anzi tu hai detto che per poter aumentare un dB bisogna che ci siano 6 punti S, giusto? Hai detto bene, esattissimo, o meglio, all'inverso, aspetta che sto sbagliando io adesso in questo momento, bisogna che ci siano, per aumentare un punto S, bisogna che ci siano 6 dB, perché se no non c'è niente da fare, e man mano che si va avanti con la potenza, ce ne vogliono sempre di più, ce ne vogliono per poter aumentare un punto S sempre di più, sicché tanto per capire solo questo, per cui se tu hai un baracchino che ti dà per dire 5 watt normale, no? E poi me lo porti a 20 watt, cosa credi di aver ottenuto come segnale? Puoi aver ottenuto se no 3, 4, 5 dB, non di più, dunque non sei arrivato nemmeno a quel punto fatidico per poter incrementare il punto S. Mi sono tirato Claudio, se hai ragione anche tu. Ma io l'ho sempre detto, qualcuno confonde i punti S con i dB, capito? Quindi io l'ho già spiegato, però se qualcuno continua a confondere io non è che posso fare da maestro, a me sono cose che mi hanno insegnato e cose che ho studiato nell'ambito amatoriale, e però bisogna stare molto attenti a non confondere i punti S con i dB, perché sono due cose completamente diverse. Io sento, mi stai arrivando 10 dB in più, cazzo, 10 dB in più, quanti punti S sono? Non confondiamo, stiamo attenti. Che è quello? Un attimo, se c'è qualcuno che vuole entrare. Appunto, ecco, sicché questo spiega il motivo, per quale motivo uno debba modificare il suo baracchino. Premesso di ancora una volta che ognuno fa quello che vuole della sua roba, spende i soldi, sono soldi. Tutte queste cose. Hai ragione. Non c'entra niente con il ragionamento. Ma lo so. Però io mi chiedo questo, che senso ha fare queste modifiche, visto e considerato che non guadagni niente? Ecco, questo. O al limite guadagni sì e no, un punto S. Ma questo baracchino non è che da 5 watt l'hai portato a 100 watt, no, l'hai portato sì e no a 20 watt, 30 watt. Esagerando. E cosa hai guadagnato? Anche se hai guadagnato qualcosa, un punto S. Magasina Futti. Ecco cosa intendo io. Avanti Luca, ci sei ancora? Guarda che non ti sto studiando, mi ripeto Luca, tra carità, ci mancherebbe altro. È solo un discorso, lui si è considerato che abbiamo sempre fatto questo argomento. No, ero al telefono, giuro, che mi avevo chiesto delle lumacchine, le sta prendendo un amico, lo stavo chiamando però non mi risponde, no, io accetto, poi sarò io a decidere se usarlo o meno, non è un problema, l'ho comprato per usarlo, non per tenerlo lì. Magari quando capita che si fa questo locale, che siamo qua nel 10, lo uso normale, ecco, dai, c'è un poco di ecco, come fa Gianni e Daniele, capito, tutto qua, non mi offendo assolutamente. Buonasera l'amico, non so da dove stai trasmettendo, comunque ti super salutiamo, facciamo girare un po' per volta, comunque in questo momento che modulo per te Giulio dalla città di Sassari in Sardegna, eh? Avanti l'amico, se mi hai copiato poi facciamo girare. Ciao Giulio, un forte abbraccio, di Giulio. Non ho capito chi è. Quel Rick sta facendo il giro a Gian Piero. Ci sentiamo dopo, là. Ok, saluto a tutti per il momento e ci sentiamo dopo, là. Datemi un po' di tempo, non di più. Gappa. Vai qua. Ehi, va bene, io saluto l'amico ma non ho capito chi è. Sì, ma i discorsi sono quelli, non è per carità, Luca, io ce l'ho, però non lo uso qua a livello salotto, perché è un baracchino che è fatto per fare il lavoro che deve fare, tutto qua, e quindi si usa questo, ma tu puoi fare quello che ti piace, per carità, assolutamente, però la radio che hai è trepitosa con quella che usi normalmente, cioè questa, è veramente bella. Bella, una bellissima modulazione, quindi non c'è niente da dire assolutamente. Poi per quanto riguarda le modifiche, ognuno della roba sua fa quello che le piace, io non mi interessa, perché tutti sanno e tutti sapete che radio uso, quindi non bisogna modificare niente, mi servono 5 watt, vado con 5 watt, me ne servono 100, vado con 100, me ne servono 200, vado con 200. Non è un problema, non è un problema. Però i baracchini 5 watt per fare QSO, 8 watt, i suoi watt sono più che sufficienti, poi sono dei baracchini regolabili come quello che ho io, l'Elbex, che ha da 5 a 10 watt, perché c'è anche le bande laterali, io lo lascio sempre a 10 watt e rimane così, già va bene, non è un problema, però non è molto il guadagno, quello che spiegava Giulio è quello, il guadagno non è molto, non si parla da 5 a 15 a 20, state pur certi che il guadagno è molto molto poco, però rischi sempre di forzare la radio, tutto lì, mentre quando parliamo da 5 a 100 allora stiamo parlando di guadagno DDB sicuramente, non guadagno i punti S. Va bene, Marco, vuoi entrare? Sì, visto che si parlava di lecca, com'è passabile, tanto lo tolgo subito. Ma chi non è un lecca, chi è un reverbero? Accettabilissimo, quando si parla di ecco, si parla di ecco. Questo a me non dà nessun fastidio. Ma è tipo quello di doppio room? No, Gianni è mitico, col suo ecco è mitico, l'ecco che c'ha Gianni non è fastidioso, è chiaro, è bello anche da sentire, queste cose cattedrali a me non piacciono, la tua è cattedrale, giusto Giulio? Sì, confermo, però diciamo che non è diciamo, non disturba, ecco, va bene ugualmente Marco, va bene ugualmente, ecco, finché l'eco è quello originale, è costruito dalla fabbrica, può anche andare bene, poi naturalmente se è quello è il compito dell'operatore saperlo utilizzare nella maniera più giusta possibile, ci mancherebbe altro. Quello di Gianni ovviamente è un eco, ma con un'altra radio, quando lui mette quell'eco lì, io sono sempre stato innamoratissimo del Saturn Echo perché è eccezionale, per me è una delle radio più belle in assoluto per la 27, sia ben chiaro. E lo stesso discorso lo facevo quando esisteva in frequenza la buon'anima di Emanuele, anche lui aveva una radio spettacolare con l'eco che aveva, perché è una puntina, non è fastidiosa, non rovina per niente la radio, anzi la abbellisce veramente, guarda, la rende più piacevole, per cui va benissimo così. Comunque, oh Marco, è ottima anche quella, sia ben chiaro, a me piace, non è squillantissima con quella di Gianni, come ha detto Claudio, ha un effetto più cattedrale, però è abbastanza chiarissima. E poi qua è fissa, praticamente non è regolabile, l'ho già tolto, è da menu, qua bisogna andare menu, scorrere le voci, on off, capito? L'ho già tolta, così farò col beep. Purtroppo è fisso, le regolazioni ce le ha, ma sono all'interno della radio, cioè una volta che te lo regoli ottimale bisogna lasciare, ma poi diciamo, sapete, io ecco non ne uso, adesso levo pure il beep appena trovo le voci di menu. Ok, vabbè, quello non sarebbe un problema, Marco, se poi non lo vuoi togliere lo puoi anche lasciare il beep, se non è così fastidioso, anzi tutto sommato alle volte quando c'è molto QRM aiuta l'interlocutore, lo aiuta, perché essendoci magari molto QRM riesce a capire che tu hai terminato il passaggio, tutto lì, quello non sarebbe, per me quello io non sento il minimo disturbo per quello, figurati, per me va benissimo. Comunque tu hai sempre avuto una bella modulazione Marco, e nonostante che non usi nemmeno microfoni di un certo tipo, usi sempre quelli manuali e palmari, dai, per cui per me è sempre stata una bella modulazione, bella, pacata, poi nel modo come parli tu hai un sistema bellissimo di parlare, sei tranquillo, non gridi, non hai una voce né alta né bassa, insomma va bene, a me piace, la verità. Meglio. Per esempio io qua sono a, siccome questo spinge un po', no? Sono a 10 cm dal mic, voce normale, a parte che ho la voce un po' rauca. Per esempio potrei parlare così ma uno schifo, e così invece è già un pochino meglio. Dicevo, le radio che mi piacciono di più, le modulazioni che mi piacciono di più in assoluto sono quella di Gianni, Doppio Room, quando usa il baracchino di oggi, la radio di oggi, e anche Luca ha una pulizia, cos'è un tornado, quello che ha provato poc'anzi, che ha rimesso poc'anzi, dai, che non è il 48. C'è una pulizia, è un bijou, poi vabbè, sento bene anche te Giulio, Claudio, ci mancherebbe, però soprattutto quella di Gianni è anche rilassata, non è troppo forte, va benissimo per chiacchierate anche notturne, ti dirò. Se ti sente tua madre qua, già lo sai, The Voice chi è, quindi lascia perdere, io sto usando un K, se uso il baracchino normale, se uso l'Alan 48 con l'MB più 5, è bellissima quella modulazione, molto bella e rilassante, quindi parlando di baracchini, la migliore in assoluto è quella di Gianni col Galaxy, poi c'è Luca col il Typhoon, capito, l'MB più 5, quelle sono modulazioni bellissime da ascoltare, ma se parliamo di K è un'altra cosa. Eia. Bene, sì, in effetti il primo mic quel 48 col primo mic era talmente acuta e metallica, sai cosa mi sembrava? Mi sembrava il mio Astatic, quello arrivato mezzo rotto dall'America, brutto, già col secondo mic ha migliorato molto, quello con la batteria da 1,5 ha migliorato molto. Luca, sei ancora qua? Sì, sono qua che mi sto sistemando la camera, sono qua, dimmi tutto. Sì, in breve, il 48 col secondo mic ha migliorato molto. Prima era troppo metallica, troppo acuta, sembrava il mio Astatic rotto, perché è rotto, sicuramente era difettoso il mio Astatic. Tu togli, dai, non voglio monopolizzare, poi c'ho la vescica tipo anguria, devo correre in bagno, vai Giulio. Ok Marco, sì, beh, certo, vai e scarica subito. È così, guarda che a me il medico mi ha consigliato che quando sento la necessità di non tenermela, devo andarci subito in bagno. Vabbè, perché ho avuto quello che ho avuto, magari come terapia devo appunto fare anche quello, senza trattenermela, e allora devo correre subito in bagno anche all'inizio dello stimolo, per non so per quale motivo, comunque così mi ha detto e così sto facendo. Va bene, sì, oh Luca, ripeto, il tuo baracchino, quello Typhoon o Pluto, cosa è, insomma, oppure Galaxy, che sono tutti da residue, ad esempio, sono tutte radio uguali, se tu parli con lo stesso microfono tuo, lo metti su quelle radio che io ti ho elencato, esce sicuramente uguale, senza nessuna problema, naturalmente che non ci siano modifiche, perché se ci sono modifiche allora il discorso cambia. E va bene, e confermo, in effetti la modulazione di Luca a me piace, soprattutto quando schiaccia il microfono con una certa violenza, che sente quella martellata. Io lo conoscevo dal solo schiacciare la portante, lo conoscevo a Luca, è così, Luca. La gente che si accende l'oretto, avanti break, avanti. Ciao Silvio, buonasera, ben sentito. Nord Sardegna, la città è Sassari, l'operatore Claudio. Avanti Silvio, sono in compagnia di Giulio e di Marco e di Luca. Vai tu, Caput. Attento pipistrello, ascolti ancora la Sardegna? Ok, chi modula per te in questo momento è Giulio, dalla città di Sassari, Sardegna, Nord Sardegna. Io ti sento bene, sì, c'è un po' di evanescenza nel segnale, però ti sento bene. Il segnale non è altissimo, mi fai 8 di Santiago e 5 di radio nel momento che c'è il massimo flusso della propagazione, senza l'evanescenza. Riprendi ancora pipistrello per Giulio e compagni qua della città di Sassari, vai pipistrello. No, noi siamo un pochino più bassi, siamo un pochino più bassi come calore qui, però ieri c'erano anche 42 gradi, se ricordo bene, pertanto abbiamo già sopportato il caldo afoso che magari stai sopportando tu in questo momento. Ok, io faccio girare per gli amici, avanti Claudio, fai girare tu, chi c'è rimasto da lui? C'è rimasto il fratello di Silvio, avanti Marco Condor, anche tu c'è pipistrello. Cos'è successo? Ero in bagno, sono arrivato adesso. C'è Silvio da Cosenza, pipistrello, l'ho detto, adesso ti faccio parlare con tuo fratello, vai. Attento Silvio da Cosenza, se copi Marco, Ratta Pignara, ossia pipistrello dalla città di Sassari. Non lo sento io. Che era molto a preparazione. Silvio, c'è un altro pipistrello qua a Sassari, L'hai sentito? Attento pipistrello. Aspetta a parlare. Cosa hai detto Silvio? Calato. In mezzo al QRM. Sì, sta parlando comunque. Sì. Oh, pipistrello, la propagazione è scesa, la propagazione è scesa, non lo so se ci sta ancora ascoltando. No, stavamo dicendo che qui a Sassari abbiamo collega CB che anche lui si chiama pipistrello come nome attivo di frequenza, non so se mi hai ascoltato. Avanti ancora Silvio per la città di Sassari capa, ti ascoltiamo a tratti, purtroppo la propagazione è scelta e non so cosa dire. Se mi stai ascoltando pipistrello, guarda, io ti saluto, ti mando i 73 più 51, però mi sa che la popolazione non ci sta aiutando in questo momento. E poc'anzi ti sentivo bene, ma adesso c'è troppo calo di popolazione, per cui è difficilissimo ascoltarti. Il QRM è più forte della tua radio. Vediamo un po' se riesci a ascoltarti un amico qua. Claudio, riesci a ascoltarlo meglio di me? No, guarda, uguale, è molto basso, in mezzo al QRM. Pazienza, dai, pazienza. Ciao ancora, Pipistrello, se stai ascoltando, ma devo dire che purtroppo dobbiamo interrompere il collegamento. Comunque grazie del contatto, se per caso stai ascoltando, ma la preparazione in questo momento non ci sta aiutando. Ok, avanti Marco. Sì, infatti era proprio basso di segnale. Bene, cioè male. Stamattina io volevo andare al mare alle 9, essere già in spiaggia alle 9, solo che alle 8 mi sono affacciato al terrazzino, sentivo quest'aria fredda, conta che ero a torso nudo, quest'aria fredda alle 8:30, ho detto no, mi dispiace ma non è da andare al mare, voglio anche l'aria tiepida per andare al mare, per riuscire a fare il bagno, se no finisce come l'altro giorno, che c'era un po' di maestralino, quest'aria fredda, gelida, alla fine me ne sono fuggito alle 5:30 di sera. Dai, mi sono tutto bruciato, dura le gambe, sotto mi fanno male. Eia. Come mai, Luca, ti fanno male le gambe, come mai? Sono bruciato, pare che non vedo l'usore, guarda, sotto l'ombrellone c'era freddo, cioè brividi di freddo, ti mettevi sotto il sole, troppo caldo, l'eva era, l'acqua era un po' così, non era molto calda, era così, dai. Accettabile, ma non più di tanto, sai, il sole con il vento ti fotte, mi ha preso un po' il petto, dietro ma ormai mi ha messo la protezione e un po' mi ha salvato, ma le gambe mi ha proprio bruciate. La Tamona? No, io vado alla Marina. Sì, è così Luca, quando c'è l'arietta fredda tu non senti il calore della radiazione solare, però ti crepa lo stesso, ti brucia lo stesso anche se non lo senti. Lo so, vabbè, pazienza. Passerà. Magari stanotte quando sei a letto ti dà fastidio come ti giri eccetera perché ti brucia. Guarda, se non hai una crema da metterti nelle gambe, potresti utilizzare il sistema di una volta, che funziona, ti posso garantire che funziona. Prendi un bicchiere d'acqua, ci metti un cucchiaino di olio, ci metti dentro, lo giri bene e poi te lo passi sulle gambe e vedrai che ti rinfresca molto, vedrai che ti lascia dormire stanotte. Sì, confermo, quello è un'ottima medicina, è vero. Già provato qualche anno fa, 8, forse 10 anni fa, che mi ero ustionato, l'ho preso tutto in un botto, sono stato male, cosa vuol dire male? E quella è stata una cosa, una medicina, guarda, che mi ha fatto benissimo. Te lo posso assicurare che fa benissimo. Forse meglio addirittura di qualche crema che vendono anche in farmacia. Questi sono i sistemi di una volta, diciamo, per così dire, delle persone anziane che quando allora non esistevano queste creme protettive di oggi si utilizzava quel sistema lì e funzionavano, sicuramente, guarda, questo senz'altro. In mancanza di creme e cose varie e medicinali, perché in effetti le creme sono sempre dei medicinali, va bene quello, va benissimo, così sei tranquillo. Bene, andate qua. Sì, un attimino che sto commutando, così ti faccio sentire l'Alan 48 come esce col il mio Alan 48 normale, come esce, ti faccio sentire. Riprendi Marco. Eia, così vediamo come va. Claudio, il tuo baracchino non farebbe testo, perché già lo sappiamo che tu qualsiasi baracchino che usi, per qualsiasi microfono, la modulazione, la timbrica è sempre quella, può cambiare l'amplificazione, può cambiare quello che vuoi, però sì, faccelo sentire, lo apprezziamo anche, ci mancherebbe altro, però secondo me, Claudio, scusami, ma non fa testo, perché ripeto, tu hai delle qualità particolari nella tua voce, per cui no, secondo me non fa testo, ecco. Aspetta un attimo, ora, ecco qua, questo è il mio Alan 48 con praticamente che ci sia molta differenza dal K che sta usando poc'anzi a questo? Ma tu credi che ci sia tanta differenza? Io, sì, ci può essere un minimo di differenza, ma è veramente un minimo però, vero Marco? Sì, è abbastanza bassi, più, vabbè, un po' gli acuti che... più attenuato anche, ti sento anche meglio con quello. Vabbè, questo è per dire così. Infatti sono esattamente ora 5 watt modulati 7, quasi 8, ecco. Però non so se ho toccato le tonalità, perché l'ho provato anche in altre, con altre radio, questo, quindi non lo so. Però ecco, questa è la modulazione normale di un baracchino normale Alan 48 con MB più 5, capito Giulio? Lo so, lo so, ma ripeto ancora una volta, non fa testo, la tua modulazione non fa testo, perché tu puoi utilizzare qualsiasi baracchino normale, che non sia naturalmente modificato e malevario, non cambia di molto, da quello che è il K. Perché? Perché tu hai una qualità particolare nella voce, ecco cosa intendo. Per cui, secondo me, tu puoi utilizzare, te lo ripeto ancora una volta, qualsiasi radio, qualsiasi microfono non fa testo, ma se tu hai una particolarità speciale. Lo so, vabbè. Sì, mi sto ascoltando, in pratica non è che cambi molto, assolutamente. Avete pienamente ragione, anzi è anche troppo alto, l'abbasso leggermente, ecco qua, lo metto a 8 e mi pare che i toni andassero così, no, così, eccoli qua, i toni andavano così, guarda, ecco, questo è uno spettacolo. Queste sono le modulazioni, Marco, normali, che chiaramente permettono di fare QSO a livello locale senza ammattare tra i beta nessuno, capito? Tutto lì, Marco, ecco. Te lo volevo far sentire per quello. Sì, ma quello è, ha la possibilità attacca e stacca? Attacca e stacca cosa? No, questo è un Alan 48 originale, questo è il mio, in concessione originale, che io per mia comodità uso con l'MB più 5, perché a me il microfono normale non piace tenerlo in mano, capito? Tutto lì, però questo è originale, mai stato toccato, niente, c'ha 5 watt, qualcosa in più da non so perché, forse perché l'alimentazione è a 13,8, però è normale, non mai toccato, originale, Alan 48 originale. Guarda, tu adesso ce lo stai facendo ascoltare e ce l'hai anche detto che hai cambiato, guarda. Se tu magari ti fai sentire domani con quel baracchino, probabilmente avremo fatica a capire cosa stai usando. Lo potrei capire solo ed esclusivamente dal segnale, perché il segnale è più basso ovviamente, perché essendo un omologato è ovvio. Però come radio ti posso garantire che non c'è quasi, cosa vuoi che ti dica? Diciamo che se una percentuale del 100%, perché di solito i microfoni dei baracchini, parlo dei microfoni normali, non quelli amplificati, modulano dal 60 al 95% a seconda del tipo del baracchino, o meglio del microfono anche. Questo qui fra il 100% massimo e il baracchino e il K, non ti credere che ci sia tanta differenza, anzi, quest'ultimo passaggio che hai fatto, quando è abbassato ancora un po', devo dire che è migliorata ancora moltissimo la modulazione, perché prima aveva un'ipermodulazione, chiarissima, bellissima, amplificatissima, quello che vuoi, ma questa è ancora più intelligibile. Registrato il break, sì, ma infatti insieme mi ricordavo le posizioni e allora l'ho messo com'era, perché l'ho collegato anche ad altre radio, tutto qua. Però è una bellissima modulazione che consente di fare radio. Per i volte non c'è problema, Giulio, perché attaccato a questo qui c'è anche un 747 che me lo porta a 80 watt, ma non serve a niente attaccare, fanno bene anche i suoi 6-7 watt per fare questo. Avanti Break, buonasera. Sì, ciao Antonio, mal ascoltato. Scusate un attimo, dai, vi devo lasciare per la cena. Grazie a tutti per la chiacchierata, ci sentiamo domani. Ciao, ciao a tutti. E chi, Giulio? Sta facendo male Antonio Club. Mi sta facendo male Antonio, non riesco a capirti, cazzo blu. Mamma mia, come sto? E cosa ne so cosa c'hai? Non c'è il radio Antonio, sì, bassissimo. Ciao a tutti, a domani. Ciao Giulio, ci sentiamo domani, ciao. Ciao Giulio, buonanotte, a domani, ciao. Non c'è il radio. Non c'è il radio Antonio, non c'è il disegno, si vuole importante, non c'è il radio. Antonio, non c'è il radio, vai. Io raga vi lascio perché sta iniziando la dinamo. Quindi un abbraccio a tutti, grazie del QSO, ci sentiamo. Lu, questo è il mio 48 normale, non è quello corto, questo è normale, normale, normale, con l'MBP5. Ciao Marco, ciao Antonio, ciao Giulio di nuovo, chiunque fosse su 10, e ciao a te Luca, riprendi Luca e fai girare. Sì, ciao Clara, salutoni, a domani se Dio vuole, avanti Marco. Ehi, ciao Giulio, ciao Claudio, buona visione. Ma in TV la danno la dinamo? Ehi, Rai Sport, canale 58. Ah, ok, no, per curiosità, perché... Ok, chi era Saturn? Antonio Riserva? Sei in basso di radio, molto basso, cosa hai fatto? Ciao Anto! Il segnale più forte è di stasera, più forte, 9-10, però la radio satura, potrebbe essere un 2-3. Marco, ma così esco dalla casa di Marina io ho peggio? No Luca, tu vorresti, ti piacerebbe uscire così dalla casa di Marina? No, veramente oggi era terribile Lu, non si capiva, addirittura per copiarti dovevo passare in FM, in FM ti sentivo meglio che in AM. Qualcuno ti sentiva più fuori frequenza, non lo so, però tu col tuo apparato hai detto che lo sentivi discretamente, non lo so perché, dipende dal baracchino, dalla centratura, larghezza di banda, non te lo so dire. Vabbè, cosa ti dico, io l'ho portato anche qua e va benissimo, prova tu, aiuto, se devi fare delle prove. C'è il radio, guarda, uno, forse uno, il segnale è 9, poco più di 9, ma la radio non ne hai, proprio la radio te l'ha mangiata. Questo va bene Marco, sì. Eh beh, se hai seguito il discorso di prima, quella radio è un bijou, anzi io avevo capito Luca che tu avevi dato quella radio per il 48, non avrà fatto una cosa simile, no, quella è una radio da tenere tutta la vita, fidati, questa di adesso, capito Lu? Comunque secondo me tu nell'altro QTH hai il rientro di RF, perché il baracchino se esce male, non dovrebbe uscire male, c'ha rientri di RF gravi, potresti anche rovinare il finale, mi capì? Guarda, ti ho mandato una foto su WhatsApp Marco, guarda, sono uguali, non l'ho data l'altra, avanti Antu. La giornata è più alta, ma è bassa. Ma adesso? 1, 2, 3, 3, 3. Ah, vaffanculo. Cazzo va bene. Va bene. Che mi senti in giro? A chi non è da dei scimmari? Io ma anche sto dicendo che sto prendendo in giro. Allora Marco, il primo, quello di basso ha 5 bande, quello di sopra ne ha 6. Perché uno è Typhoon, l'altro è Typhoon 2. Però il Typhoon 2 è modificato a Colt. Giustamente la banda centrale è la banda D, la banda normale, no, aspetta, A, B, C, D, E. A uno ne ha 200 e l'altro ne ha 240, c'è ragione. Sì, adesso va bene Antonio, adesso va bene, che si può dire che apparato è? Ah, il famoso Lincoln, Neia. Sì, giù Luca, stavo guardando, mi sembravano uguali, invece ecco perché ho chiesto la storia delle bande. Addirittura io ne ho uno di apparato per cui la banda normale è la banda B, B di Bari. Boh, Luca, quale stai usando adesso? Se farà del fumo. Adesso la modulazione è più forte, molto di, non c'è paragone, però non è pulitissima, c'ha sempre un non so che di, come di, o saturazione o come la chiamano certi, compressione. Tipo compressione. Aspettiamo rientri Luca, a sapere quale dei due almeno. Sembra quasi migliorata ancora di più, eh. Io naturalmente per dare un controllo migliore sto avvicinando l'orecchio alla, all'apparato. Beh, adesso un po' di più, si è andato migliorando, ma non è scaldando quello si stabilizza o roba del genere, no? Allora, questo qua è quello modificato. Io mi sto ascoltando in cuffia e me lo sento bene, boh, non so poi, in trasmissione come va. Sì, sì, certo. Yes, poi c'ho il Mobicom, poi ne ho due vecchi, adesso non mi ricordo il nome, praticamente mi era caduto in terra. Poi come mi sono alzato, ma ti parlo di qualche anno fa, quelli vecchi sono comunque tanto che hanno la manopola, non c'hanno i led, cioè non i led, come questi qua che tu giri i canali e vedi il numero, no? C'è sotto la manopola, non so, che mi ricordo che è baracchino, accende ma non trasmette, non riceve. Mi pare sono questi tre canali, sì. Sai, sono due pacce, oh. sì, infatti uno per pezzi, ma non hanno bucato bene, manco il tecnico. Non lo so, comunque, diciamo che ne ho, allora, due, il Mobicom sono tre, la 44, 4, 6 baracchini. Quello stavo usando prima, quello nel Typhoon basta, nel Typhoon normale basta, quello solo quello. Che l'ha detto l'ha data a Roberto, Roberto l'ha data a me. Questo il Typhoon 2 ne ha 7, 6 bande. Come mai questo qua mi dà la banda cittadina e manda D? Di trovi giù cadu nuda, vabbè dai, questo come ti sembra tu, secondo te, il tuo parere, dai, vai. Questo è un po' più nasale, non esce male, già esce bene, dai, non esce, non fa schifo, ecco, è un po' più nasale. Guarda questo qua, microfono l'ho cambiato, guarda un po', che sono levato anche l'amplificazione, vai. Guarda un po', ecco l'ho levato, guarda un po', 1, 2, 3, prova. Guarda un po', aspetta, guarda un po', l'ho messo a 1 microfono. Allora, questo qua è il microfono amplificato, ho la batteria da 1,5. E ma chi che c'ho la manetta? Tu lo sto abbassando un po'. Guarda, prova, 1, 2, 3, prova. E vabbè, questa è un'altra radio, magari poi con il tempo ti abitui a questa, poi magari attacco l'altra, cazzo, faccio l'altra che è più bella. L'ho occupata qualche un paio di settimane fa. No, Sì, magari ci vuole anche uno dinamico, capito, da CTE, perché già è modificato di suo, non c'è bisogno di mettere un microfono amplificato. Vabbè, dai. Non ti dico tutto un bingo, va via, è nato il car radio, non te lo dico quanto va. Sai che non c'è manco WhatsApp, io te l'ho mandato, ci avrei fatto vedere uno straccio verde con le macchie, tutte le macchie che c'erano sopra. Senza contare quelle che ho levato, dopo, ogni bingo, guarda, la metà bassa. No, fuori. Sì, ja. Comunque sembra stabilizzata adesso e tanto la modulazione mi sembra stabile, non, se non c'è attacco all'orecchio va bene, non so Luca cosa ne pensa. Allora Mike Gage le ore 3, il VAT, così i VAT sono tutti chiusi e così sono tutti aperti, no? Li metto così. Il microfono ce l'ho a 4. No, dicevo, tu come senti Antonio? Adesso si è stabilizzata la radio, chiedevo. Adesso lo sto dicendo a me, sì, adesso è perfetto. Ascolto molto, molto bene, prima non stavo conoscendo. Grazie, super radio, bella, bella. Saturazione ricomparso, un filino rispetto al passaggio migliore di tutti che era prima, no? Non lo so, vabbè, dai. Comunque è trascurabile, all'inizio era drammatico. Bene, vai Luca. Sto iniziando a sentirlo un po' compressa la modulazione di Antonio, sembra agganciato. ma ti arriva a Santiago 7 lui, come mai così basso? Qua è 9 più 10. Ma così, ma c'è nulla, questo male che questo malacchino, ma ti sta arrivando, fa un passaggio? Vabbè, sai cosa, che magari per te è più positivo, Marco, capito? Perché essendo anche tu verso l'alto, lui in alto, lo prendi in pieno. Invece per me magari è un po' negativo, capito? A zona alta lì, come la vuoi chiamare, che zona è quella, Marco? Ma tu o io? Aspetta, non ci sto capendo niente. Allora, Luca è alle casette in Canada, io Cinema Ariston, all'incirca quasi. Sai dove abita Antonio? Io, sì. No, la zona tua non sapevo, infatti, non avevo idea, perché gli altri ti dessero controlli bassi. E tu certi giorni qua sei arrivato anche 9.15, 9.20, mi. Un segnale pieno, anzi 9.20 proprio. Il Ponte Nuovo. Ma vicino a Vittorio Giove. Ma Luca ti dovrebbe ascoltare più che 7. Siete attaccati voi due. Ma Marco, tu sei quasi sul più del più 30. Vabbè, oggi c'è qualche watt in più, 12 non modulati. Modulati 30. Non mi viene manco il fruscio, mannaggia. Hai visto quel bicchiere che ti ho mandato? Aspetta che guarda il messaggio. Si indovina quanto ci sono lì, così buttandoli via poco alla volta. Sì che è stanco, mamma mia, male ti stanca. Ci siamo messi a correre un po'. Siamo andati dove c'è Camboni, proprio verso la parte di giù, come si chiama lì a... la zona, vabbè, vaffanculo, quel villaggio dei bici lì, però molto prima, c'è un pezzo di spiaggia lì che è fantastica. Non so, comunque abbiamo pranzato, passeggiato, poi riposato in spiaggia, e niente, qualche birretta, bagno nuda, leva la fredda, troppo fredda, c'è anche gente a bagno, mi hanno pieno, ragazzine, ragazzini, bambini, l'unico è io, la bestia mia, non siamo entrati. No, perché così ho bruciato in buco. E com'era l'acqua? Vabbè Marco, quant'è? Secondo te quanto c'è lì? Adesso che è infusa. No, la metto un po' fredda così, oh no. Mi sa mosso, capito? Oh Marco. Sì, c'è un bicchiere di Cnusa, mi pare, cos'è? Non lo leggo al contrario, pieno di monete. Cosa mi hai chiesto? Quanto ci può essere in soldi? 20-30 euro di più. Ma siamo poca volta. Visto a me un po' di più. Li lasci lì a ossidare. I soldi vanno spesi, sono fatti per essere spesi, mai conservare. Guarda, roba da vestire ne ho anche da regalare. Non c'ho niente da comprarmi. Nulla, forse magari quelli rimangono lì per pagarmi la bolletta internet. E poi vabbè, qualcosa per mangiare anche, non è che. Ma comunque. No, lì ci sono esattamente circa 90 euro, circa. 90 euro, ma quanto è grande sto bicchiere? A me pare un bicchiere normale, 0,30, quant'è? 90 euro, sicuro sì, non è che te l'hai sognato, no? Sicurissimo, guarda, io ci scommetto, però se ci sono di meno, come dici tu, te le regalo, ci sta? ma tu li hai contati già, grazie. Io avrei voluto trovare invece una schifosissima GoPro cinese, perché la GoPro costa tanto, io per due fesserie che faccio avrei voluto una di quelle che vende Amazon, per usare un paio di volte in macchina, ho attaccata la maschera per fare snorkeling, roba del genere. Allora ci sono, vabbè tu li non li vedi bene, ci saranno 60 euro di moneta da 2 euro, tutto il resto è 20, 1 euro, 10, 5, da 5 ce ne sono pochi, da 20 centesimi ne sono tanti, dunque circa 90 euro ci sono. Sono buttati così, 2 oggi, 3 domani, 5, 4, 10, quelli che mi piacciono me li mettono nel portafoglio, sono quando arrivo a casa, svuoto il taschino dove ci metto le monete, prendo e butto lì dentro. Comunque già verranno consumati, non ti preoccupare, se no si va a zigheggiare in chili, prendono l'ossido. Meglio. Marco, tra un po' è Ferragosto, cosa me li spendo adesso? Vabbè, anche io dovrei stare attento perché i pochi che mi entrano mi devono servire in benzina per andare al mare. Però caspita, quell'affare l'avrei voluto. Poi mi stavo fissando queste maschere piano facciale, tipo per fare snorkeling, no? Tipo Decathlon, quella Easy Breath Subea. Qualcuno però ha detto che va in debito di ossigeno quelle maschere. Sono un po' lonfie come le hanno concepite, boh. Non so chi ha ragione. Però mi stavo anche ragazzino con la maschera, ma secondo me non è affidabile. Io quando vado alla mare faccio un bagno, mi tuffo sott'acqua, non salgo, poi sto lì, boom, va, qualche bracciata, ma niente di, non sto lì a andare sott'acqua con la maschera a cercare, a fare, non interessa. No, a me piace quello invece, guardare i fondali, poi mi sto riorganizzando uno schifosissimo mini stand per pigliare qualche polpetto se ce n'è in zona Alghero, perché ci avevo buttato tutto. Ma niente di impegnativo, più che tutta roba cresce, maschera cresce, pinne cresce, no balle, il fucilletto no, il fucile è un Mares. Sai cos'è? Il problema è che prima lo facevo queste cose, qualche anno fa, adesso sono vecchio Marco, mi sento anziano e non le faccio più, dai. Avanti, tu senti che mi stavano chiamando al telefono. Vabbè Lu, anch'io sono una larva umana, nonostante l'età. Però non mi voglio arrendere ancora, dai. No vabbè, al baracchino ci scherziamo sopra, però io dallo sviluppo, no? Dalla pubertà, no? Mi è venuto questa specie sempre di fiacca, anche quando giocavamo a calcetto, fare ginnastica, no? Questa che noi chiamiamo stanchezza cronica, no? Che non è dimostrabile, non è nemmeno riconosciuta, e con l'andare degli anni è andata peggiorando, capito? Quindi io sono sempre stanco, un po' così, insomma, non posso fare cose che fanno gli altri, in poche parole, capito? Si pensava una cosa muscolare, ma ho fatto elettromiografia, non c'era nulla, però il neurologo era un po'... solo questo ha detto, non si sa mai cosa c'è sotto. E così, dai, quindi... io gli faccio l'esempio a qualcuno, ho detto guarda, tu vuoi sentire come mi sento? Io come che fossi uscito da un coma decennale e mi stia svegliando oggi. No vabbè, non esagero, però già sono abbastanza di fisico a terra. Vabbè, non ho mai voluto fare sport perché nato mandrone, morirò mandrone e vabbè, quello sono i geni di mio padre, non ci possono fare niente. Oh, chi è che faceva sport? L'unico che faceva sport era nonno. Per il resto mio zio, vediamo, no, mio zio ci aveva lo sport del gomito alzato col bicchiere in mano. Alzava, riempiva, alzava, abbassava, riempiva, alzava, abbassava, riempiva, c'ha il braccio muscoloso, quello del bicchiere. E vabbè, però non è uno sport salutare quello. Meno male che si è dato una calmata a Maragana, a chi non va di là. quando c'erano i soldi. Yuhu, vino. Sì, di culo e di geni, genetica. Certi sono predisposti per certe malattie. Infatti stasera a doppio rum gli ho fatto la battuta. È inutile stare lì, non bevo perché fa male, non fumo perché fa male, tanto vale darsi tabacco, venere, droghe, di tutto di più, perché tanto mi sentire venire qualcosa di più. E vabbè, oh, io già non bevo e non fumo, ma così non mi sembrano soldi sprecati, almeno per il fumo. E io un po' così sono. E l'altro giorno stavo parlando con Gianni, che Gianni faceva brutta figura al bar, non so, che non beveva. E io quando vado ai bar, cosa credi? Caffetteria, mi caffè, latte macchiato, cappuccino, non... l'alcol, non... sì, ogni tanto mi concedo anch'io un bicchierino di amaro o quello che è, come quando si andava in pizzeria con i CB, ma erano rari eventi, capito? Io lo stesso, se mi offrono qualcosa al bar faccio brutta figura, perché non sono abituato a bere, non... bastano due bicchieri di birra e già mi gira la testa a me. Infatti quando usciamo con Pomponio, che lui sai dove va a parare, no, sempre, devo stare attento. Appunto, dillo. Millomi, parli del diavolo e spunta il bicchiere, mi. Che cosa, il coso o la birra? Ah, no, la birra la bevo calda, non la bevo ghiacciata, che è cosa diversa. Quando invece sto lavorando, birra non la bevo, è cosa diversa. E capisco se è sano e come si deve, sotto un tetto che è palazzi. Perché quando ci scendi, sta tranquillo che non ti raccoglie manco un cane. Eh? Non ho capito, no, dimmi a tu. No, oh, c'è il televisore acceso della camera di Simona, la camera letto. Sì, cazzo, così tanto si sente. E lontana sarà, se no, 8 metri, 10 metri. No, sono leggendo il giornale. No, sì, vabbè, sempre anche su, cioè il negozio è sempre suo, però lì non siamo più assieme. I giornali. No, allora, quando ho deciso di aprire il primo negozio che è lì Via Giusti, hanno messo soldi di metà per uno. A me non piace quello. Poi tutte le voci impostate uguali. Gabba gabba, gabba. Cioè, fate, sì, siate personali nel parlare lì. Tutti la voce uguale, tutti l'eco uguale, tutti la timbrica uguale, tutto il bip uguale. Positivo che parlare, dai, gatto. Non fanno succedere. avvicinate, va bene, va. Meglio un buco, mi sento malandro, gli dici, dove erano tu? Questo l'ha modificato, aspetta, quello di Cagliari, va, c'è il nome dentro, non mi ricordo, boh. Aspetta, il nominativo, Roberto Rapido, perché quelli da Radio Killer sono buoni. Questo qua praticamente c'ha un finale di potenza, mi sa che 20, adesso mi ricordo, 22, 25, boh, non mi ricordo. Poi c'è la scheda Colt, BP Colt, non ha bisogno di manco di doppio modulatore, e poi mi ha messo dietro, aspetta, dietro mi ha messo il tastino per levarne per l'ascolta. Adesso non mi sento, chiamo di voi, che ne lungo, cioè ascoltarmi, poi ascolto di continuo a voi, poi mi ascolto io, è un casino. Comunque sono belli, un apparecchio che piace un bel. Mi piace, no, questo qua adesso, questo qua, quello che era tuo, qualche anno fa, mi sa che, sto pensando di fargli fare da Luca faccio fare la cubicatura della mascherina, i tappi li porto di nuovo a zero, sono tutti graffiati, però li posso fare bene al fondo, perché sono stati fatti a quello di scimmia. Questo qua, vabbè, no, questo qua è, questo è originale invece, questo che sto parlando adesso, però è un bel graffiato, ma tu guarda, non ti dico Rubingo va via, Nando, guarda, è Sant'Antonio mio. E ho capito, bello il 3009 lo stesso, a me piace anche il 4005, sto tornando al 4005 della Intec, è praticamente simile a questo, là. Che cazzo? Allora, questo qua in teoria, Nando, così è a zero, no? Sono amaretta infatti, non so se mi brucia un po' di radio, ma infatti quello là, aspetta, quello che stavo usando prima, questo qua quello da 1.5, no? Quello che stavo usando prima è un dinamico, è tipo il CTE. Questo qua è quello dinamico, capito? Questo è quello tipo CTE. Adesso mi hanno detto di comprarne uno che lo sta vendendo la GBC, che è tipo CTE, che esce bene, boh. Lo compro, va, vediamo un po' cosa ne esce. E vabbè, tanto lo uso anche qua, come lo sto usando adesso, ma senza eco, così non disturba. E poi quando c'è propagazione me ne vado nei canali alti e uso questo qua, perché c'è qualche watt in più dell'altro, di questo normale, dai, diciamo, questo iPhone. L'unica cosa che devo fare è regolare l'antenna, solo quello, quando vado nei canali alti purtroppo stazione era 1.5. Adesso con questo sicuramente che da oltre 20 watt salgono forse anche a 2, e non vorrei rischiare, dai. 12 euro, 13 euro, è una cazzata. Perché quello che mi ha mandato lui, Antonio, il tipo, infatti faceva schifo, infatti ha detto, guarda che il microfono mi hai mandato, e purtroppo solo quello, poi il cavettino d'alimentazione, se lo vedi, guarda, non si mandano le cose, ma quando si vende una radio, si vende come Dio comanda, deve essere, non dico lucida, ma, insomma, uno straccio non ti costa niente, glielo passi, così fa la sua bella figura, tutto un pingo, dai, tutto un pingo. E già ci ho pagato un po' così, sì, si è compensato, è male, è compensato anche. Vabbè, questa in teoria era una radio che se non ho capito male, intorno ai 400 euro, 450, ma io l'ho pagata di meno, molto molto di meno. Ma non il 48, no, questa 9.009, aspetta, fammi pensare, 2.15, forse 2.20, sì, due anni fa, un anno e mezzo, due anni fa, no, è un 6 poli con la ghiera metallica, sai qual è che ha l'attacco telefonico, no? Il 7009, il CRT 7009, quello sembra, a parte che sembra un bibanda di aspetto, no? Cioè, tasti bianchi, il display molto grande, colorambra, quello c'ha quell'attacco bruttissimo, RG, non mi ricordo come si chiama, RG 4511, boh. Luca, quello è un 48 Colt, uno dei tanti, però più che altro mi piace la forma è spettacolare, guardalo, bianco, ghiaccio, con le cose blu, è un messaggino, un attimo. Pensavo che fosse il tuo, che è il tipo, aspetta, non si vede niente qua. Che cazzo l'hanno fatto? Allora, praticamente ti spiego, questo baracchino qua c'ha la lampadina sua originale, però ho notato che dentro si sta un po' sciogliendo, perché quella adesso quelle lampadine che scaldano, no? Sta sciogliendo lo smitter. E ieri l'ho smontato, praticamente mi stavo adattando un LED di televisore con una resistenza, no? Con la resistenza. L'ho tutto piazzato, tutto a posto, infilo il coso, come si chiama? Un pezzo di, tipo un cartoncino, no? Dove ci sono attaccati i contatti, attacchi i fili lì, e l'ho messo al centro del LED. Cazzo, non la sentiva più. Praticamente cosa succedeva? Perché come cercavo di entrarlo dentro allo smitter, si piegava e mi spezzava il LED. Quindi, lo sai, quelli dei televisori sono sottili sottili. A 12 tanto li vendono, 12 volte. Vabbè, posso mettere anche all'interno, è vero. Sì, no, quello lì, il LED facciamo luce bianca, bella, bella. Adesso lo lascio così, se la biglia di luce, appena... Ma mi sa che li vendono questi LED, non scaldano neanche, tanto così non rovinano lo smitter. Ehi, quella tua gambetta, ma li vendono a 12 volte. Ah, 3,3, ho capito. E poi se vuole vendersela. Ehi, vabbè, ne stavo mettendo anche uno di quelli rossi, solo che adesso devo trovare il sistema, dai. Già glielo fai, lo trovo, magari me lo compro e poi già so come fare. Faccio come hai detto tu, io lo metto nel cavo direttamente e così sono più tranquillo. Sì, però c'è un però, riesci a definire rossi, chi è il positivo e negativo adesso di quelli due? No, i cavi che alimentano il LED, la lampadina dello smitter, sono tutti e due rossi. Ho capito. Strano che abbiamo messo due fili uguali. Sì, infatti ho visto dentro che l'ha mezzo sciolto lo smitter. Ma fa carizzare. Pensare che questo qua è un tecnico, ma vabbè. Ma ti dico un'altra cosa tu. Vabbè, per quanto riguarda la sporcizia, questa è la nicotina, non lo so, ma proprio ha un bel. Poi anche lo smith lo vedevo giallo, cosa ho fatto? L'ho smontato, ho levato la plastica, l'ho messo a bagno con lo sgrassatore e anche lì è uscito un po' di sugo. Adesso già è più presentabile, là. Non è che sia nuovo, perché a me, io sono uno che ci tiene molto alle cose, però purtroppo cosa posso fare? Niente, perché la mascherina è un po' graffiata, c'è il frontale dove ci sono le scritte, diciamo, non è un po' graffiato, poi la cornice lo stesso è tanta, sì, i tappi sono tutti graffiati, vabbè, ormai è andata così. Poi c'ha dietro dove tu inserisci il cavo d'alimentazione, un po' spaccato, lo vedono quel coso lì, sì? Dove tu entri lo spinotto d'alimentazione, quello maschio, diciamo, lo vendono quello. Quello lì è spaccato. Poi c'era, guarda tu, questa radio, questo baracchino è una barzelletta. Poi c'era la manopola dei canali, se tu la muovevi si muoveva tutto, il coso dei canali e poi il LED che c'è del TXRX, no? Tutto mullato, Trento, qua. Infatti adesso qua si muove il... cazzo allucinante, va. Si muove quello dell'RFG, MKG, quello del volume dello squelch, poi quello del SVR, tutti si muovono. Devo durare l'abri e stringere i bisacci a guardadino, quello lì, lo devo stringere. E vabbè, siccome gli ho detto che condizioni era, gli ho detto che era abbastanza nuovo, ma non pensavo che arrivasse così sozzo, là, diciamo. Poi tutto quanto... Ma quello che era tuo è sempre, vabbè, ha i suoi graffi, purtroppo come hai detto tu prima si graffiano, col tempo si graffiano, però è sempre perfetto, non si muove niente, è tutto come era prima. Se non mi ricordo male, sì. Allora, di questa radio qua, questo baracchino qua, non mi ricordo chi me l'aveva detto, è stata aumentata la radio solo e basta. Forse poco poco il watt, ma pochi pochi, tipo mani di voi, adesso prima dava 5 watt, adesso è a 8 per dire, no? E la radio, basta, non è stato mai toccato altro. No, questo ci ha dissipato lo stesso. Tutti e due uguali sono, tu usi quello là, c'è una banda in più, sono uguali, uguali, uguali. Io te vado a fare la puntura a mamma. Prendi Marco se ci sei. Mi stavo scioppendo qua, a parte che ho tirato giù tutto al minimo, perché la radio era un bel calda. Questa c'ha un po' come difetto, sì c'ha più vasto, però scalda un bel dietro. Potevano mettere in fabbrica una ventolina e non si sarebbero rovinati. Questa è quella che ne ha di più, più del 6009, che il mio sarebbe il 5005, anche più del 7009, è l'unica che sono 60 banda laterale, 40 FM, in AM sono 12 portante muta, modulati 30, regolabile ovviamente, adesso ho messo tutto ai minimi termini, non sale nemmeno qua. Sì, guarda, io ho ripreso a modulare nel 2010, avevo smesso nel 94-95 mi pare, nel 94 giù di lì già non si era disfatta la greffettina nostra di coetanei e ci avevo roba vecchia, più nuovi acquisti, mi è venuto il flash come cibo anno nuovo e quindi ero arrivato a contarne una ventina, compresi gli omologati, e allora poi lì un po' mi stava passando la passione, no? E ho cominciato a regalare, a Pomponi ho regalato il Connex 4000 Echo, ho regalato qualche omologato 40 canali tipo Midland, il 48 XL Multi, e ne ho fatti fuori, vendere tanto te li pagano 2 lire, anche venderli su Roger Kappa, lì ti vogliono dare roba vecchia per un po' di soldi, allora tanto vale. Poi avevo fatto fuori, vabbè quello non è un baracchino, l'857 e l'8009, che poi l'8009 sarebbe solo FM e fa 29,50, poi VU, cioè fa i 29 amatoriali, quindi inutile, e 50 la banda, la parte FM della banda 50 MHz, poi la VLU. Adesso sì, qualcosa mi è rimasto, quindi il 3009, sono passato al 3009, ne ho due, un omologato, uno un po' meno, poi l'HR 5005 Intec, che poi sarebbe il tuo CRT 6009, è la stessa cosa, 7009, 9009 più qualche omologatino, 40 canali qua e là. Di roba vecchia ho dato tutto in vecchiume, mi è rimasto un portatile Maxcom 7 dell'epoca, quella è una bomba in AM, esce molto bene. Sì, che poi la scheda è sempre quella, PT3006, diciamo che il 3009 che ho qua sotto, che è spento adesso, è l'evoluzione di quelli di allora, no? C'è sempre la stessa scheda, migliorata, aggiornata, eccetera, eccetera. Poi, vabbè, io ero intenzionato quasi a tentare di pigliare la patente amatoriale, solo che poi quegli apparati non hanno magari il problema, però le antenne, qua in condominio mi devo fare malamente, non... Alla fine sono rinservito, ho lasciato perdere, ho venduto tutto, tanto così non ne posso usare, senza patente non se ne posso usare. E così per giocare in PMR ogni tanto era. No, sono rientrato. Ehi, allù. Il 4000, un po' monocromatico, tutto grigio, non c'ha dettaglio. Sì, c'ha questo riverbero, peraltro mai usato. Vai Luca, vai. Beh, per quanto mi ricordi io del 4005, secondo me, no, Anto? Io mi ricordo abbastanza bene che c'aveva Stefano, quello, mio fratello. Ed era un'ottima radio. E tu non hai spacciato un radio. Ma se tu guardi su Facebook, no? su Marketplace, si chiama Market, non so, mi ricordo, vabbè, Market, qui dove vanno le cose, c'è un FM 548, una tipa ha messo un euro, l'ho contattata, ha detto quanto ne vuoi, se quanto mi ha sparato 100 euro, ma non sei va, ha detto guarda, massimo 40 euro ti puoi anche baciare, ma se sto dando un Mobicom, il mio è nuovo il Mobicom, messo bene, capito, nuovo, sta a fa sua, è perfetto, costano molto di meno, e gli dà 100 euro, mi sa che senza staffa e senza microfono. Luca, e arrivi Marco. Hai detto il 548, sì, c'è gente che vende buchi di culo, scusate il termine, a prezzi allucinanti, anzi quello era anche poco, ma... allora io avevo l'Intec FM548SX, originale, tranne la modifica 120 canali, cioè la scheda 120 canali che ti dava la Intec, no? Ti dava anche l'interruttorino da piazzare sul guscio che era predisposto, no? Sulla scocca. Tutto funzionante, sì, qualche graffietto, però tutto funzionante, con staff originale, pomelli originali, cavo, microfono, 50 euro. L'avevo dato un anno fa l'avevo dato, prima dell'accidente. 50 euro perché non vale più di 50 euro. Non vale, tutto funzionante, ma io non sapevo nemmeno che lo stessi cercando un 548 blu. L'ho dato a un camionista che gli serve quando sono in colonna. No, ma non sto cercando niente, no, ero curioso, sai, no? Quando si mettono le cose in vendita e poi vedi il prezzo a un euro, perché lo mettono per contattarli, poi chiedi quanto lo sta dando e ti spara la cifra. Questa è una ragazza, ho visto, sicuramente non ne capisce una mazza, ma rivede questo, sa che è un baracchino con tutti questi pomelli, lei convinta che ha quel valore, ma non se li vale. Massimo, tra l'altro, una quarantina di euro, ma non di più. E altro se capita, non c'è problema. Nei vari gruppi, CD, eccetera, eccetera, lì mettono sempre cose da vendere. Vedi un po'. No, normali, altro, già li controlla, già ne mettono tanti, che magari qualcuno non se ne fa più niente, se lo vende. Buona la cifra. Buona, beh, anch'io, dai, chiudo pure io, perché c'ho, mamma mia, c'ho queste gambe, mi stanno facendo un bel male. Dai Marco, ci sentiamo domani, ciao Antonio, a domani, dai, se Dio vuole, buonanotte. Aspetta, le 10:20, minchia di Buddha, tutta la sera in radio alla fine, quando troppo, quando niente. Vabbè, ciao Antonio, ciao Luca, buona serata, buon tutto, dai, sentiamo. Ciao.